È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La zanzara di Giuseppe Cruciani. Ma questo è un personaggio meraviglioso, Fabi Fibra, che avremo nei prossimi giorni qui a Radio 24. Luca Telese in collegamento da Roma. Luca, dove sei? Chi è il genio? Fabi Fibra, non lo conosci? Ah, il rapper italiano. Ma la canzone è dedicata alla zanzara? No, che è la zanzara? Alla politica, a un sacco di cose. Si para la zanzara, sì, lo so, ma è una canzone perfetta per la zanzara. Perfetta. Sentila, sentila ancora. Ma che tristezza, bamboli di pezza, mi domandi perché non te le fai? Perché c'ho paura di più buoni e meno avrai, più dai e meno prendi, prima lo si impara, poi. Caro Luca, non mi dire che anche che non prima non. Com'è? Prima non si impara. Si impara poi la zanzara, ma questa è scritta su commissione, dai, è il nostro inno. Politici italiani che perepe qua qua qua qua perepe. Questa è fenomenale, politici italiani che perepe qua qua qua qua, è bellissima. Caro Luca, non mi dire che sei uno di quelli indignati per Gheddafi, perché non ci posso credere. Il tuo giornale è indignato per la visita di Gheddafi. A me sta terribilmente sulle palle. Cosa? Però lo considero un nefasto genio per il paradosso che ha ingenerato. Cioè, i sacri difensori delle radici cattoliche dell'Europa, quelli che se un crocifisso viene svirgolato da una classe tirano fuori il bazooka, considerano bello il nome della politica che 100 ragazze per 80 euro al giorno svendano i sacri valori della fede cattolica, vadano a fare le convertite, i viaggi in mezzo alle dune. Ma è terrificante! Scusami, però questi cattolici di cui tu parli. Gheddafi va in Germania se la Merkel gli fa trovare le hostess. Però ho capito, ma non la Germania non ha delle mignotte. Sì, Luca, però la Germania non ha il passato che ha l'Italia con la Libia, è un po' diverso. E beh, ce l'ha col Togo, che fanno? Se arriva il dittatore del Togo si mettono l'osso in mezzo ai denti, dai. È ridicola, siamo dei pagliacci e ho il terrore che lo avrebbe fatto pure Prodi, perché il trattato di amicizia l'ha firmato il governo Prodi. E Berlusconi ci ha messo. Oh, bravo, bravo, perché in realtà anche il centrosinistra. Però tutti ci mettono le. Ma perché ci sono gli affari? Ci sono gli affari, caro Luca. Vabbè, ma per gli affari. Ma sono importanti gli affari. Non vende il ma culo. Mica per gli affari. Ma non stiamo vendendo quello che tu chiami il culo. Il non culo stiamo di 80 hostess. Ma no, ma che c'entrano le hostess? La gente si scandalizza anche per i ricevimenti. Queste ragazze vanno con questo vecchio baboso, dai, possiamo dire. Ma dirlo, vanno, no? Che vanno? Vanno lì, lo ascoltano, se ne vanno, pigliano 80 euro. Puttanate. E poi vanno sulle dune, perché questa è una cosa fantastica. Lo pubblichiamo domani, il protocollo d'intesa con le ragazze. Come il protocollo d'intesa? Che pubblicate? No, abbiamo chi legge il fatto domani? No, vabbè, dammi una. No, troverà il memorandum che veniva mandato alle fanciulline. Il memorandum addirittura. Però io sono sicuro che tu ti indigni per l'accoglienza che ha ricevuto Marcello Dell'Utri a Como. Difendimi Marcello Dell'Utri. Ma io difendo persino Marcello Dell'Utri, cioè penso. No, te lo dico, penso che se Marcello Dell'Utri vuole parlare dei diari di Mussolini, i presunti diari di Mussolini. Patacca di Mussolini. Diari Patacca, eccetera. E beh, addirittura a parlare dei presunti. Oh, diari meno male, meno male. Vabbè, meno male. Grazie, cioè. Difendo. Può chiamare delle hoste. Luca Telese difende Marcello Dell'Utri. Ma tu mi vuoi colpire al cuore? No, ti voglio colpire. E io so che tu sei una persona onesta intellettualmente, e io so che tu. Hostess che vanno da Marcello De Lupi con in una mano c'hanno i diari Mussolini e nell'altra il Corano. No, questo però questo è uno scherzo, è una bulura, la vuoi buttare in caciara su questa cosa qua? No, no, no. Perché no, io so benissimo, difendo Il diritto di Dell'Utri di parlare degli aree di Mussolini senza essere interessato, certo, assolutamente. Meno male. Dunque, sono dei cialtroni. La sovranità limitata. Dunque, sono dei cialtroni quelli che vanno lì e impediscono a Dell'Utri di parlare. Poi hanno tutto il diritto di dire mafioso, guarda, quello che vogliono. Il no? boicottaggio ha senso solo contro i negazionisti, perché è un tema delicato. Per me nemmeno su quello, figurati, nemmeno su quello. No, ma se qualcuno che ha subito l'olocausto dice io non faccio venire a casa mia uno che mi dice che le camere a gas erano un parco a tema, io lo capisco, però che Dell'Utri voglia dire le sue frasi in libertà sui presunti diari di Mussolini che non sono diari di Mussolini, vabbè, quello non lo sappiamo ancora, comunque anch'io sono d'accordo con te che sono non probabilmente c'è uno storico che è vero, ma il discorso sarebbe lungo. Qui abbiamo in invece Germania, lo Spiegel si comprò i diari di Hitler, lo so. Cioè, leggetevi, do un consiglio, il meraviglioso libro di Harris. Ah, l'hai letto? Cioè, io leggo ogni tanto pochi libri li leggo, ma pensavo che ero troppo poco colto per te. Perché io mi leggo queste cose popolari. Ma che cose popolari? Quello non è affatto un libro popolare, è un libro fantastico, ma non proprio si popolare. Si faceva nel garage di casa con le carte imbevute nel tè. Fantastico. Secondo me c'era già Dell'Utri. Fantastico, fantastico. Allora Luca, sai che abbiamo questa sera? No. Abbiamo una persona che probabilmente di tutte queste polemiche su Gheddafi se ne frega altamente, perché in Libia ci va, ha rapporti con la famiglia di Gheddafi che è numerosa, e questa è la contessa Marta Marzotto. Buonasera. Buonasera, come state? Bene, buonasera. Bene. Non ho sentito, sai che si sente malissimo. Ogni volta e non questa... ho sentito Luca Terese cosa ha detto. Sì, so meglio, che non era d'accordo, ma ma adesso perché, lo sente? Perché prende subito per signore poco per bene o signore poco per bene, la ragazza che invece magari un po' per curiosità, un po' per bisogno, un po' per saperne di più sull'Islam, visto che ce l'abbiamo in casa, e accettano questi pochi soldi, però essendo tante, comunque è una cifra. Ma lei non dice una cosa sbagliata, Luca, perché allora ha sentito qualcosa di Terese? Terese, perché prendai subito... No, sentivo malissimo e pochissimo, sì. Ne vorrei sapere di più. Allora Terese, perché te la prendi con queste ragazze? Rubando un'immagine che Flavia Perina ci ha regalato oggi, è venuta al Fatto, ha detto: ma chi mai avrebbe accettato negli anni 70 di andare a sentire Videla che parla di diritti civili per 80 euro? Ecco, forse oggi è un po' forse è meglio andare, Luca, forse è meglio andare per 80 euro a parlare di diritti civili piuttosto che le Miss Italia che mostrano qualsiasi cosa, le mamme delle Miss Italia che dicono guardi com'è bella mia figlia, guardi che vita piccola, guardi la gamba lunga, guardi il sedere alto. Cioè ognuno, hai capito, abbiamo delle bellissime ragazze, ora sono anche molto colte e preparate, forse vogliono approfondire questa cosa, ricevono un Corano, un libro da leggere, sì. E in più vengono pagate, ne vogliono sapere di più, e una guardi, quello che so io, e lo so molto bene, il Rais non è mai stato solo, qui nessuno può aver detto che ci è andato a letto, che ha fatto una sporcazione, non è mai stato solo un minuto, ma con nessuno, perché via una cosa all'altra, super protetto da un ambasciatore fantastico, da una serie di però sa che cosa segretari mi preoccupa, che non lo vogliono contessa. Un minuto, quindi questo è brutto, sì. Detto da una persona veramente colta. Signora Marzotto, no, però Telesi è preoccupato, che cosa? Sì. A me preoccupano i leader che vogliono diventare pedagoghi. È una cosa che colpisce, ma no? È un'altra quando storia, ma Stalin voleva fare il maestro di questo. Linguistica. I leader che vogliono diventare maestri. Però scusi, signora Marzotto. Lui è un leader completamente anomalo. Lui ha fatto una rivoluzione col maggiolino, un maggiolino celeste color cucina economica, ha fatto una rivoluzione. Color cucina economica. Sì, è color turchesino, come so. Senta, lei cosa ama io di più di... C'avevo un frigorifero, una stufa così quando ero povera. Senta, signora Marzotto, lei che cos'è che ama di più, che apprezza di più di Gheddafi? Me lo dica. Dopo di Gheddafi, allora... Io, a me mi viene da ridere questa cosa. Perché? Io una volta, se mi fate raccontare questa cosa lo capirete. Racconti. Ecco, allora, una volta era ospite mio uno dei figli, adesso mi ricordo, penso Gheddafi. Allora l'intervistatrice, che era una donna ed era una mia amica, molto brava tra l'altro, gli ha chiesto, dice, ma perché voi continuate via... non so, vi affannate a correre sempre in Italia, continuate a venirci, l'Italia non vi ama, l'Italia vi tratta malissimo, dice che siete degli scavezzacolli, che fate qui, che fate là, che andate beh, qualcosina fanno, insomma, no? Ecco, no, io posso dire, allora la risposta di lui dice, noi in fondo, ma ci piace tantissimo l'Italia, non solo ci piace, la sentiamo come fosse anche la terra nostra e ci veniamo così volentieri. Se poi non ci amano, dice, a noi basta l'amicizia di Prodi, di Cossiga e di Marta Marzotto. Quindi i poverini si accontentavano anche di poco, no? È rimasta solo la Marzotto. Vabbè, adesso quindi il trattato di amicizia è stata anche celebra solo perché c'è la Marzotto, per Prodi è vera. Ritirato. Non so, cosa Cossiga purtroppo non c'è più. Allora, cominciamo a dire i vantaggi o le cose. Intanto, non so, a 20 minuti, a tre quarti d'ora, come volete, a secondo del mezzo, abbiamo un mare che più bello non può essere. Io personalmente, con tutti i ricordi di mio suocero Gaetano Marzotto, che aveva fatto, non so, chiestogli allora per andare a civilizzare i negretti, chiestogli dal re e da Mussolini di fare delle villette, di fare delle case per i contadini, per gli operai, perché avevano bisogno di tutto. Fra Leptismania ed Oms aveva preso tutto quel terreno e lì lo chiamavano dopo Valdania, da Valdagno, Valdania, e ha fatto, e mi pare che proprio ha costruito 2.500 piccole ville, molto carine, erano delle case coloniche, ma molto tipo villette. Senta, ma questo villaggio che lei vuole fare, si fa alla fine o no? No, ma questa è un'altra cosa, io voglio fare una cosa. Ma loro lo vogliono loro, solo che ogni tanto c'è il risveglio, ora Marta corri, allora noi andiamo, facciamo, e poi alla fine non se ne fa niente, beh, inshallah, se Allah vorrà, se vede che Allah non mi vuole, io non lo faccio. Senta, ma lei di tutte queste discussioni sui diritti umani, su come vengono trattate le donne, cioè, allora, interessa o non interessa di queste cose qua? Allora no, ma allora, io non solo me ne interesso, ma ne so sicuramente più di chi parla così. Allora, loro ma il fatto, come mi scusi un attimo. Hanno una fondazione per i diritti umani, hanno un sacco di soldi, lo so per ma certo. Loro chi? Non so. Ma parlo dei ragazzi, io in questo momento parlo dei ragazzi, non so. Cioè dei figli di Gheddafi, I figli. Allora, ma quanti sono sti figli poi? Ma sono tanti, appunto. Io 5-6 li conosco. Poi conosco la madre, che è una donna meravigliosa, la figlia che oltre che essere bella, insomma, però vabbè, hanno una fondazione, d'accordo, però insomma la situazione dei diritti umani in Libia è quella che è, diciamo la verità, signora Marzotto, avranno pure una fondazione, tutti i regimi, diciamo, sì. Comunque, va bene, parliamo dello stato della Libia, va bene? Lo stato della Libia, perché anche noi adesso cosa siamo? Noi che siamo così, cosa stiamo facendo per il Pakistan che è nella, non so, è una morte ogni giorno continuata. Ci si scalda tantissimo per uno tsunami e poi dopo si muove di sé. Certo, forse ce ne sono troppi, forse non abbiamo nemmeno però mi dica, io guardi sul fatto che noi dobbiamo avere rapporti con la Libia, io la penso come lei, però uno deve anche ammettere che in Libia c'è qualche problema che riguarda non solo i rifugiati, riguarda il fatto che la Libia democrazia non è. Poi io sono più cinico di Telese, me ne frego e dico dobbiamo avere rapporti commerciali e tutto. La cosa drammatica è che se no comunque noi siamo nei confronti della... Ma insomma, perché la Francia vorrebbe essere al posto nostro, l'Inghilterra? siamo in questo ma l'avrebbe accolto in questo modo la dobbiamo ringraziare veramente Berlusconi, ma lo dobbiamo ringraziare perché sono cessate le carrette dei disperati. Ma io non ho detto che non devono venire, ma non può, questi strappano i documenti, ma lei sa come sono trattati, ma poi in Libia, scusi, con ma tutto non il rispetto, sono libici, li mandano loro, nei lager arriveranno anche lì, dalla un attimo Libia. Terese, un attimo d'accordo, non sono libici, però arrivano, libici sono 4 milioni, ho capito, non sono libici, però sono pare libici. Che vengano trattati malissimo nei campi di cosiddetti campi di concentramento, ma in Libia non credo nemmeno per loro, ma non ma questo basta stare attenti che non arrivino lì, allora dopo possono andare in un posto dove li trattano meglio. Io questo come vengono trattati non ho approfondito, veramente ne so troppo poco. Scusi, però. Però le posso dire una cosa, sì, un attimo solo, c'è Marzo, no, ma a proposito delle 200 donne, se volete questo intervento lo faccio, no, no? certo no. 200 donne, allora io e mia nipote Isabella Borromeo, io non conoscevo la Cirenaica e non conoscevo assolutamente Bengasi, le Montagne Verdi, dove sono andato a vedere un museo meraviglioso. Ecco, mi è stato mandato, non sono in un aereo, siamo andati io e mia nipote. Sì. Siamo scesi addirittura con gli onori, non so. Vabbè, immagino, sì, certo. Vi ringrazio perché è stato veramente un viaggio molto, molto culturalmente anche importante. Allora, scendiamo e sono venute da 5 a 7 donne, dico donne perché siamo donne, no? Sì. Signore, non so quello che volete, con un foulard in testa molto, molto, molto a posto, molto, molto, molto elegante molto carino, certo. Con un mazzo di fiori ognuna. Sì. Allora ci siamo seduti lì, abbiamo mangiato i loro dolci di miele che ingrassano solo a guardarli. E poi ci siamo messi a parlare del loro, della loro professione. Sì. Allora, una era, facevano parte del ministero senza essere dei ministri, però era come se lo fossero, ma non i sottosegretari. Cioè, scusi un attimo, signora Marzotto. Che si occupava? Sì. Una si occupava del tutto il benessere delle ragazze. Ho capito, madri. Dunque lei condivide il fatto. No, poi, aspetta, poi diamo la linea, al traffico. Un attimo, uno si occupava? Dell'avvocatura. Perché se c'erano problemi nelle università è solo dei giovani. Sì. Vabbè, insomma, erano ben inserite. Ministri che si davano un da fare. Ho capito. E voi non avete nemmeno. Certo, ho capito, però la domanda è questa. Siccome dobbiamo dare la linea al traffico, dopo ritorniamo subito anche con lei, caro Luca. E qui Gheddafi ha detto una cosa, che le donne in Libia sono trattate meglio che in Italia, che mi pare una bestialità, o no, Luca? Ma non lo so, se mi vengono a prendere con un aereo privato probabilmente anch'io troverei fantastica la Libia. Forse abbassando l'occhio di osservazione, se uno vedesse questo paese con gli occhi degli immigrati che noi respingiamo e diamo in mano a Gheddafi perché li chiude in qualche campo di concentramento dove non può entrare l'ONU, manco allora l'elicottero. Forse saremmo un po' più preoccupati. Però non voglio dire nulla, sicuramente è vero il ricordo della contessa Marzotto. Allora, traffico, torniamo, perché voglio far ascoltare anche a Telese quello che disse, ti ricordi Luca, in una trasmissione su Radio Rai, se non sbaglio, il ministro La Russa, eri tu a condurre, a proposito del trattamento delle persone in Libia. La Libia, in fin dei conti, gli immigrati li tratta meglio della Spagna. A tra poco. La Zanzara. Rapper italiani che per epe qua qua qua qua per epe. Politici italiani che per epe qua qua qua qua per epe. In Libia ci sono stato mezza giornata soltanto l'altro giorno e ho visto un paese civile, comunque un paese assolutamente, assolutamente civile, a livello più avanzato rispetto a molti. Guardi, va benissimo, le ho chiesto solo se lei fosse, molti... se fosse la sua vita, se fosse in Libia, se si sentirebbe garantito. Facciamo... Io mi sentirei meno garantito che in Italia, se vuole sentire questo, ma ugualmente garantito forse come se fossi in Spagna. E questo già mi pare una cosa ragionevole. Paragone tra Libia e Spagna, però voglio chiedere alla contessa Marzotto come è andata ieri. Lei era a colazione anche a Palazzo Grazioli, poi è stata... Insomma, che serata è stata? Innanzitutto, lei com'era vestita? Lei che è sempre così elegante. No, ma dai, adesso andiamo dai diritti umani a come ero vestita io. Vabbè, noi siamo così. Noi se andiamo dei giocherelloni, signora Marzotto. Non è che siamo. No. Se fossimo sempre seri, sarebbe la fine. La mia cameriera è stata chiamata da una mia amica e ha detto: come si vede? Com'era vestita Marta Marzotto? Allora lei gli ha risposto. forza. Ah, io non lo so, è sempre vestito uguale. Ecco, qui non è che c'è cambia. Un caffettano ce l'avevo o no? Un caffettano, i miei sì. pastaroni, ormai i miei caffettanoni li conoscono tutti. Vabbè, ma Gheddafi invece era elegante, secondo lei? Sai che non sento, io non so, ho chiamato un telefono normale, Gheddafi, non sento una parola. Gheddafi era elegante? Ma ieri sera sì, moltissimo, perché poi siano le divise inventate di lui perché ha molta fantasia, questo fa folklore, no? Ma... Abbiamo tanto lettico, arriva uno tutto vestito o di giaguaro o di sciarpone o di medaglie o di cose, ma ben venga. Ecco, ma però dai, caro Luca, voglio chiedere una cosa a Telese, no, non c'è più Telese, però è vero quello che dice lei, perché c'è anche, io per carità posso anche criticare l'eccessivo folklore eccetera, però c'è un po' di snobismo da parte soprattutto di una certa sinistra che parla sempre di multiculturalismo, di tolleranza. Ma non è vero, sono solo dei sinistri questi signori, perché quando Prodi l'ha sdoganato, l'ha mandato a Bruxelles, allora andava bene. Sì, era no, addirittura il fratello Prodi, l'amico D'Alema, l'amico D'Alema. Prodi c'è un altro fratello, ma non cambia, e non cambia soprattutto il Reis. Il Reis ha capito che noi siamo un po' dei cialtroni. Ah sì, se l'ha capito secondo lei? Secondo me sì. E chi sarebbe cialtrone? Beh, tutti noi, se un giorno Prodi lo sdogana e diventa una meraviglia, un fratello, poi il giorno dopo Prodi non c'è più e rimane sdoganato da un'altra persona, allora addosso. Non mi pare, noi abbiamo bisogno del petrolio, credo, l'Italia non ha sottosuolo con pietre preziose, con minerali, con grandi cose, allora ci dà il gas, mi pare che vada bene, il petrolio mi sembra che sia uno dei più buoni petroli, aiuta, investe, mi pare che adesso il 10%, il 7% della banca, di una sì, banca. Insomma, gli affari sono quelli, però signora Marzotto, la domanda è anche questa, c'è bisogno secondo lei in cambio di tutto questo, di avere relazioni, affari, di un'accoglienza di questo tipo? Ma voi non sapete l'accoglienza che fa lui quando arriviamo noi. Ma io non a lei che accoglienza me, a lei che accoglienza fa? Io sono solo amica della famiglia. Lui l'ho visto due volte e sempre qua in Italia. Quindi io non ho assolutamente contatto. Ecco, io dico che però l'accoglienza che loro fanno, che ci fa ricordare, guardi, io ho visto i più bei musei, i più bei i micromosaici con i fasci di Torio, con l'Aquila, ma non ti viene in mente Mussolini non ti viene in mente né Mussolini né nel fascismo, ti viene in mente tutta la grandiosità dei romani, degli antichi romani, degli imperatori, di tutti, dei Cesari, tutti questi, per cui l'emozione, insomma, ognuno di noi, sì, sarà perché li abbiamo invasi, sarà perché in fondo abbiamo fatto anche strade, io credo che siano state fatte strade, scuole, eccetera, mio suocero ci ha messo, non so, 2000 case, sì, però io la sento anche Italia, cioè io mi trovo quasi a casa mia, per cui i deserti, e quello è il più bello in assoluto, non è una questione io non sono una persona, non so fare un calcolo, non sono opportunista e quindi non mi interessa Senta, ma è vero che la figlia di Gheddafi, la prediletta figlia di Gheddafi, Aisha, è detta Aisha, sì, Aisha è la Claudia Schiffer del deserto, è così, ma ecco, così la chiamano loro, ma secondo me è molto più bella, addirittura più bella, sì? Sì, ma poi è una ragazza colta, intelligente, ecco, è stata, siccome è avvocato, ha chiesto lei di fare la difesa di Nassar, come si chiama il quello lì? Senta, che vuole dire lei, signor Mazzotto, a quelli che dicono, beh, insomma, è un dittatore, che dicono, in fin dei conti è un tiranno, un dittatore, eccetera. Come risponde lei, che conosce così bene la famiglia Gheddafi, la Libia, come risponde a questa persona? Ma io trovo che i dittatori presi così, come lo dice lei, sono tutte macchiette. Adesso salta fuori che Hitler è addirittura a sangue ebreo. Ecco, se invece di fare... Di lasciarlo fare, facciamo l'esame del sangue, forse risparmiavamo tutte queste tragedie, quelle sì che sono state tragedie. Vabbè, a parte adesso Hitler eccetera, ma insomma, quelli che dicono... Ma poi i dittatori, ne abbiamo tanti, però? Mi pare che, non so, cioè, non sono dittatori i vari stati canaglia, i vari... Cioè bisogna avere rapporti anche con i dittatori, lei dice. Ma no, ma dipende. Ma lei non lo definisce un dittatore, non lo definisce un dittatore. Ma poi secondo, per esempio, secondo i libici Gheddafi è immortale, perché è sfuggito talmente tanti di quegli attentati che secondo loro è un leone immortale, ma allora? Non morirà mai. Dipende, può essere dittatore per voi e salvatore, per esempio, per la Fiat o per le banche, no? Un salvatore di sicuro. Ma su questo non c'è dubbio. Però che dittatore è uno che comunque viene da amico. Si presenta da amico, chiama fratelli, apre i forzieri e apre le porte di un paese. Beh, non è un benefattore, non è un benefattore. Non è che di mestiere faccia il benefattore. Chi è che ha aiutato la Fiat? Chi è che ha aiutato le banche? Chi è che ha dato avrà avuto anche il suo tornaconto, signora Marzotti. Il 7% per tirarci fuori dei pasticci. Cioè lei mi dice una volta noi avevamo la cassa del mezzogiorno, adesso non ce l'abbiamo più. Bene, grazie. Illuminati, ora saranno illuminati, ma di luce propria, non ci sono più. Comunque. Va bene, signora Marzotto, la devo ringraziare che c'ho il giornale radio, grazie mille di questa sua fotografia. Ci chiamati quando abbiamo un pochino più da dibattere. Sì, dobbiamo, come no, noi siamo qui. Abbassata, chiuso il telefono così, via, giornale radio. Siamo qui alle 19:16, 800 24 00 24, dopo l'esploit di Marta Marzotto, grande fan di Gheddafi, qui alla Zanzara. Andiamo a sentire i titoli del TG3. Gheddafi parte da Roma lasciando una scia di polemiche anche nella maggioranza. I vescovi un boomerang al TG3, Monsignor Mogavero. Giustizia e processo breve, Berlusconi vede Alfano e Ghedini, partita ancora aperta tra ultimatum e dialogo con i finiani. Condanna a morte per Carla Bruni, la stampa iraniana, la minaccia per un sostegno a Sakineh, dura risposta di Parigi. Dopo il caso di Messina, indagine sulla morte di un neonato a Roma, il padre denuncia ritardi per un diverbio, i medici smentiscono tutto. La madre dell'italiano morto in carcere in Francia, mio figlio aveva il volto segnato, Frattini autopsia anche in Italia. Sale il numero dei giovani senza impiego, un disoccupato su 4 ha meno di 25 anni, l'Istat fermo a luglio il mercato del lavoro. C'è un filo di speranza per i 33 minatori intrappolati a 700 metri di profondità in Cile, è iniziato lo scavo del pozzo per salvarli. Sky TG24. Roma, la famiglia del neonato morto accusa le ostetriche, conclusa l'autopsia. E a Messina un'altra donna denuncia, ho partorito in bagno per colpa dei medici. Istat, senza lavoro un giovane su 4, rallentano i prezzi ad agosto. Anche i vescovi contro il Gheddafi Show, è stato un boomerang, dice la CEI. Italiano morto nel carcere francese, Frattini chiede autopsia anche in Italia. A Bergamo, marocchino accoltella la fidanzata incinta che perde il bambino. Anna Maria Franzoni fuori dal carcere per la prima volta, è andata ai funerali del suocero. Obama è contro le truppe nel giorno del ritiro dall'Iraq e stasera parlerà alla nazione. Gli Ayatollah minacciano Carla Bruni, deve morire, la premier dame impegnata per Sakineh. Milan piglia tutto, c'è anche Robinho, Borriello va alla Roma, fra poco chiude il mercato. Laura me la voleva dare, ma io dovevo lavorare, lavorare, lavorare, ancora lavorare, ancora lavorare, ancora lavorare. Beh, comunque ho il suo cellulare, ogni tanto le messaggio dico ciao, come stai? Lei mi risponde, ci vediamo, scoppiamo, è strano, un tempo ero io che la cercavo. Ma non ero abbastanza famoso, che troppo non va con chi è poco famoso. Poi becca il tronista e chi l'ha più vista, oggi invece mi chiama, mi cerca, mi ama. Volessi farmela sì che potrei, ma che tristezza, bamboli di pezza, mi domandi. E perché non te le fai? Perché c'ho paura di più buoni e meno avrai. Ma lo si impara, poi più sogni e meno fai, più fai e meno sogni, prima lo si impara, poi Caro Parenzo, so che non li conosci, non lo conosci, Fabri Fibra, il mio nuovo mito, rapper italiano contro tutti i politici, un grandissimo personaggio, fra qualche giorno sarà qui alla Zanzara, e ti faccio ascoltare lungo queste note, durante queste note, sì? Quello che ha detto questa mattina da noi Renzi, il sindaco di Firenze. Renzi, devo dirti la verità. È necessario? È necessario, sì, purtroppo sì. Lo sai perché è necessario? Perché in realtà lui si distingue un po', fa un po' lo sbruffone, cerca di distinguersi dal coretto e dal teatrino della politica quotidiana. Secondo te c'è o ci fa? Ecco, questo è ottimo. Probabilmente sia c'è sia ci fa. Cioè ci gioca un po' in questa cosa. Io ero rimasto qualche giorno fa quando aveva detto via tutti. Esatto, spazziamo sì. Questa classe dirigente. Via non so tutti. Se c'è qualche novità in questa pillola che tu ci proponi tra poco. No, praticamente no, però insomma lo sentirai. A parte nonno Silvio, molto drastico sui dirigenti attuali del Partito Democratico, c'è anche un'indiscrezione, Renzi. No, però non si parla male dei vecchi, però. No, infatti. La democrazia è una rottura di coglioni. Infatti nonno Silvio è un'espressione brutta. Che significa nonno Silvio? Non è che uno perché ha 75 anni deve andare fuori dalle scatole. Io Ma poi è un paese fondato sulla famiglia, no? Dove i nonni hanno un ruolo sociale fondamentale. Sì, ma poi non è che i giovani sono per forza migliori dei vecchi. Chi l'ha tra detto? L'altro. Si possono dire stronzate anche quando uno è giovane. Soprattutto quando uno è giovane. Esatto, soprattutto. Beh, voi stasera avete là in trasmissione De Mita. De Mita e Serracchiani. Tantissimi auguri con De Mita comunque. Cercate di... Meraviglioso. Cercate di... No, perché i tuoi telespettatori di sinistra però non ricordano che De Mita, anzi che Scalfari era legatissimo a De Mita. Sì, come no, certo, fu uno sponsor. I tuoi telespettatori che spesso dicono Repubblica, i moralisti, via, via Berlusconi, devono ricordare che l'ottimo De Mita... Fu sponsorizzato da Eugenio Scalfari, il director di Repubblica. Allora Renzi cosa dice? L'indiscrezione di cui ti parlavo è che Renzi potrebbe finire nell'api di Rutelli, non ce ne frega niente, però potrebbe... Nell'api di Rutelli. Cos'è l'api di Rutelli? Lo so cos'è però. Sì. Roba che fa sbadigliare la discussione, questo ha ragione, roba che fa sbadigliare la discussione sulla legge quando elettorale. Quando sento l'api di Rutelli mento mano alla pistola, diceva Goebbels. E allora noi lo diciamo invece quando sentiamo l'api di Rutelli, la riforma elettorale, il nuovo Ulivo e queste cose di cui parla il Partito Democratico e che fanno sbadigliare Renzi, sentiamo. Il centro-sinistra dovrebbe fare che cosa? Dovrebbe tornare a accendere l'entusiasmo, la passione e la speranza di un popolo. E invece che ti facciamo una grande e bella discussione sul nuovo Ulivo, sulle alleanze, sulle coalizioni, roba che oggettivamente farebbe sbadigliare chiunque. Però insomma non so se ci fa, però su questo come dargli torto su questo per esempio quando dice siamo ossessionati da Berlusconi, questa è una vecchia polemica per carità, però lo dice Renzi, sentiamo. Berlusconi non può essere dipinto sempre come un'ossessione dal nostro campo. Qualche giorno fa un autorevole parlamentare del PD ha detto facciamo un governo di liberazione nazionale da Berlusconi portando dentro Daffini alla sinistra estrema. Ecco, con questo tipo di proposte qui, Berlusconi rimane al potere per altri 15 anni. Ha ricordato una frase mitica di Franceschini, mitica perché dire ridicola è anche poco, il Comitato di Liberazione Nazionale da Berlusconi. Vabbè, io ti faccio ridere, lo so, ma Renzi è delle tue parti, No, amico mio, io sono tu sei padovano. Graviti intorno a Siena, però noi, lui non c'entra niente perché è sindaco di Firenze, lo so, dicevo toscano. Toscano. Mia figlia stanno lì. Ma ha speranza come così come futuro leader di non so che cosa, Renzi, oppure no, oppure... No, è finita la stagione del partito dei sindaci. Ti ricordi quando Massimo Cacciari lanciò anni e anni fa questa idea dei sindaci? In verità Renzi è un sindaco di una città come Firenze, però non penso che possa diventare un leader nazionale. Oggi il vero competitor, c'è poco da fare, di Berlusconi, si chiama Nichi Vendola. Può piacere o non piacere? A qualcuno però... non piace perché ha l'orecchino. Hai sentito, hai letto questa cosa? No, non l'hai letto. Sì, però non è che l'orecchino... Dici di no, eh? A me pare una stupidaggine. È anche cattolico questa... però, no? È con l'orecchino, però è omosessuale, però ha amici nella chiesa, ha tutte queste belle contraddizioni che a sinistra piacciono moltissimo. Il bello è che l'ha detto uno di sinistra, uno scrittore di sinistra, eccolo qui, c'ho il nome qui che se no mi sfugge, che si chiama Gian Paolo Rugarli. il quale ha detto se non avesse, se rinunciasse all'orecchino sarebbe perfetto. Un grande leader non ha bisogno di ciondoli, brilocchi e pendagli, ti rendi conto? Ma mi pare una cazzata, si può dire? Come no? No, non lo so, poi magari si arriva una querela, però una cazzata è una cazzata. Una cazzata è... Butta nel secchio, dice a Vendola, nel secchio dei rifiuti, la chincaglieria di qualsiasi genere. Dunque, meglio senza orecchino. Ma che io, come si possono dire ma queste cose? Ma che c'entra senza bandana? Ma cosa c'entra senza il caraceni? Ma cosa c'entra? Ma poi non è che è venuto col caffettano di Gheddafi all'improvviso. C'ha l'orecchino da un sacco di anni, Vendola, è quello, eccetera. Senza tacchi a spillo, senza il cilicio. Tacchi a spillo non lo so, no, scherzo, questa è una battutaccia. Il nonno Silvio, secondo Renzi, sentiamo. Io ho detto che per me lui è nonno Silvio. Berlusconi ha 6 anni meno di mia nonna, nel senso che i tempi passano per tutti. Silvio Berlusconi ha fatto una stagione di 20 anni in questo paese. Vogliamo continuare a discutere delle lettere tra i leader e ce lo teniamo qui per altri 10 anni, o vogliamo fargli godere le sue meritate baille, il suo pensionamento il più rapidamente possibile? Io sono per la seconda ipotesi. Vado in giro per il mondo da signore vagabondo. Ogni sera è piena di emozioni che trasmetto con il cuore. Caro Parenzo, io ti faccio ascoltare questa canzone che ha come titolo Io canto, canto, una cosa del genere, e l'autore è Mister Domenico. Mister Domenico, una cosa sensazionale, una di queste orchestre popolari, ecco, sentiamo. Sì, che una volta suonavano alle feste dell'Unità. Adesso, guarda che ti racconto. Amori già spenti riaccendersi con le mie canzoni. Ho visto amori già spenti riaccendersi con le mie canzoni. Allora, la cosa è questa, non ci crederai, ma questa canzone, questo gruppo, l'orchestra musicale di Mister Domenico, sì, sarà il primo spettacolo alla festa di Mirabello di Fini. Dimmi, il futuro. Dimmi che non ci credi. Non è possibile. No, leggo. Ma questa non viene per la festa della Lega in Emilia Romagna. Forse nemmeno quella. Allora, ma veramente? Ti giuro, te lo posso assicurare. Guarda qui, ho davanti il programma. Apertura della 29ª festa di Mirabello. Ci sarà discussione tra Raisi e vari personaggi sui temi più disparati. Poi, quali immigrazione e integrazione per l'Italia? Granata, Casson, Modera, Stefano Lolli, dal resto del Carlino. 21:30, spettacolo musicale, orchestra Mister Domenico. Geniale, è geniale a darti questa anticipazione. Stesso chi ascolta capirà. La scelta della colonna sonora per una kermesse politica è fondamentale, perché è la cifra del tutto nell'Italia berlusconiana. E loro si presentano con Mister Domenico. Non si può combattere Berlusconi con Mister Domenico, È quello che non dico si io. Si voleva un battiato, no? Un centro di gravità permanente, qualcosa un po' di sofisticato, no? Ma poi non Mario Sgalambro. Non è tutto, e non è un tutto. Un po' della patria, mi suggerisce Giovanna Ribotta, produttore esecutivo della sì, sette. Mister Domenico, però devo dire che c'è qualcosa di geniale anche in Mister Domenico, per carità, c'è qualcosa di geniale. Certo, non si può combattere Berlusconi con Mister Domenico. Io credo che non lo si possa combattere nemmeno con Benny e Vivetta, perché domani, mercoledì 1 settembre, ci sarà, alla conclusione del dibattito pomeridiano e serale, la musica con Benny e Vivetta. E ti aggiungo questo, il giorno dopo, giovedì 2 settembre 2010, ore 21:30, ci sarà un incontro di pugilistica padana di Ferrara versus boxing Croazia. Questo lo capisco già di più. Venerdì 3 settembre, alle 21:30, dopo sempre i soliti dibattiti, elezione Miss Festa Tricolore. Questa è straordinaria, credo che sia ereditata però dalla festa precedente. Poi però si fermano, credo. No, aspetta. L'orchestra Bagutti, il 4, sabato 4. L'orchestra? Bagutti. Ah, devo esserci lì. E poi, in conclusione, dopo l'intervento di Fini, domenica, musica con Lello Lelli e Tatiana, e poi l'illusionismo con il mago Kabul. L'illusionismo. Col mago Kabul, è straordinario. Conclusione, borsa sulle note del, come si chiama? Mister Domenico. La Zanzara. Canto e vado in giro per il mondo da signore vagabondo. Ogni sera è piena di emozioni che trasmetto con il cuore. Parenzo! Eccomi! Ci segnala un ascoltatore che in Emilia-Romagna le orchestre che ha citato tirano una cifra. L'ho capito, probabilmente è una tradizione della festa tricolore di Mirabello, ma questa volta è diverso, non è una festa qualunque, è una festa... Quelle zone lì della Romagna bisogna stare un po' attenti, no? No, ma soprattutto non è il futuro, è libertà per l'Italia, generazione italiana, cioè, confini. Appunto, la musica è identità, cioè voglio dire, quando si aprivano i vecchi congressi del PC, BDS, DS o anche la stessa Forza Italia, cioè le colonne sonore erano fondamentali, no? Qui come i colori del palco, come tutto ti ricordi, tutto, no? Com'era quella di Veltroni? Poi Veltroni è un maestro di queste cose, no? Ha fatto un po' di tutto, perché da Rino Gaetano a Giovanotti, Vasco Rossi, De Gregori, la povera patria forse una volta. Una volta, poi alla fine Giovanotti nel 2008, no? Ti ricordo? Poi Giovanotti alla grande, certo. Ascoltatori, 800 24 00 24, ti sei perso la contessa Marzotto qui a Radio 24 fare l'elogio di Gheddafi, è stata spettacolare. E sentiamo quelle che sono le reazioni degli ascoltatori. Giuseppe, provincia di Varese, buonasera. Cosa vuoi? Da Guttuso, sì, buonasera. A Gheddafi. Da Guttuso a Gheddafi. Certo. Giuseppe, ecco. Giuseppe. Sì, buonasera. Dica. Io voglio intervenire appunto per quello che ha detto la contessa. Cioè, se facciamo parlare una persona così, allora tutti hanno detto di esprimere le proprie opinioni, giusto? Beh, adesso lei mi sta contestando il fatto che uno faccia parlare la Marzotto. No, non mi faccia no, come quelli che contestano dell'Utri. Fare l'analisi di quello che ha detto, praticamente. Una persona analisi un po' troppo. Conosce, assolutamente, conosce soltanto il suo raggio, la sua famiglia, che... È come parlare di padrone di casa a casa di una persona, la stessa cosa. Certo, lei va con l'elicottero, viene presa con un elicottero, portata, riverita. I figli, cioè, e mi dice che in Libia non c'è problemi, le donne sono trattate meglio che in Italia, La pensava un po' come il Gheddafi, sì, su questo la pensava un po' come il Gheddafi, anche sull'idea di democrazia, ma insomma io a un certo punto le ho detto, ma insomma si tratta di autocrate, bisogna vedere, per esempio per la Fiat o per alcune aziende italiane non è per niente un autocrate, beh sì, sappiamo, ma però... dopo che una persona dice questo genere ci vuole una pernacchietta sotto. Pernacchietta alla Marzotto, pernacchietta alla Marzotto, sì, ma insomma... La contessa, non si può. Dice Parenzo che non si può. No, c'è ragione. Una pernacchietta io... Piccola, le dice, piccola pernacchietta. Posteriore. Ma è inelegante, una contessa. È una contessa, va sull'elicottero con Gheddafi, col figlio di Gheddafi, conosce Aisha Gheddafi, la Claudia Schiffer. Ma poi le bacio le mani alla contessa, non c'è problema, prima e dopo non bacio mani. Però lei dice, dice queste cose qua... Bacio a mano, dopo, prima la pernacchietta e poi il bacio a mano. Questo si può accettare però, Parenzo. Prima la pernacchietta, poi bacio le mani, signora contessa, Marzotto. Vabbè, Giuseppe, grazie. Perché la contessa, alla fine della fiera... interviene nei vari talk show. Sì, no, veramente non interviene mai, comunque. No, ma nei talk show in televisione è giusto. Ogni tanto va, sì. È il suo ambiente attuale. Diciamo che a parlare di politica non è proprio il suo... Ma infatti ha parlato di Gheddafi, ha parlato della sua conoscenza di Gheddafi, del suo amore per Gheddafi e soprattutto per la Libia. Grazie, Giorgio da Mantova, buonasera. Buonasera. Dica. Sì, niente, il mio intervento era per dire solo sull'ipocrisia e anche il pressapochismo, soprattutto di voi giornalisti, no? Allora, ipocrisia è come si fa a dire che Gheddafi è dittatore, certo, ha fatto tanti di quegli sbagli, è un dittatore, cattivone, eccetera, ma non so, ma esempi infiniti. I campi concentramento nozzi sono vivo ancora da vedere, piuttosto Colin Powell, il numero 2 degli Stati Uniti, che mente all'ONU per intervenire in una guerra... non gli dà neanche l'autorizzazione, ma lo fanno lo stesso. Allora il cattivo però è Gheddafi. Prima l'ipocrisia, poi ce ne sono ipocrisie tipo anche, non so, sulle sue ragazze che invita Gheddafi. Allora abbiamo un primo ministro che si riempie la casa di prostitute, va ai compleanni dei 18 anni, vabbè. Altra invece, mi dispiace che non c'è Teleso, spero che mi senta, anche sul vostra, poi lei mi invita alla Marzotto, e poi fa ironia sull'invito alla Marzotto, è troppo facile così. Ma io non sto facendo ironia. È possibile che non si veda Giorgio, scusi un attimo. Scatto di Gheddafi che viene qua, ci prende in giro dopo che lui porta sul suo corpo i segni del colonialismo, eccetera, eccetera. Cioè, qua viene qua e ci sbeffeggia. Cioè, è geniale, secondo me. E voi non lo capite neanche. Chi l'ha detto che non lo capiamo? Giorgio, chi ha detto che noi non capiamo Gheddafi? Può darsi che non lo capiamo, però lei perché dà per scontato che noi non capiamo Gheddafi? Mi scusi. Perché fate solo dell'ironia, sono un dittatore, basta che sia musulmano. No, veramente, dicendo che è un dittatore non è che si fa ironia. Dove, è l'unico paese dove non si muore di dove si muore di fame, è l'unico paese in cui c'è istruzione. Sta parlando dell'Africa. Non lo sto difendendo, sto solo dicendo che certo ha fatto delle cose incredibili, però... Che la Libia sia l'unico paese dove la gente sta meravigliosamente rispetto agli altri paesi dell'Africa è tutto da dimostrare, Giorgio. Non è che uno possa andare liberamente in Libia a vedere le cose come stanno. Cioè, se io voglio andare come giornalista là in Libia, non ci posso andare liberamente, Giorgio, sia chiaro. Sì, questo. Lo so, però non lo so, mi vedo tantissima ipocrisia. No, ma quello è vero. Giorgio, mi scusi un attimo. Giorgio, mi scusi, senta Parenzo quello che vuole dire, Parenzo. No, che c'è una differenza tra un uomo come Mubarak, ad esempio, e un simpatico bamboccione clown come Gheddafi. Cioè, non ci saremmo mai permessi delle ironie su un uomo come Mubarak o altri leader che il Medio Oriente ha avuto in passato, no? Ma veri leader, magari anche sanguinari, ma voglio dire, Saddam era molto meno buffone e istrionico di un Gheddafi, no? Quindi voglio dire, se l'ironia che ci permettiamo nei confronti di Gheddafi è rispetto a questo circo che si porta in giro, volutamente, un uomo kitsch. Giorgio, noi non è che ridiamo o lo pigliamo in giro, poi mi rendo conto benissimo di quelle... Mi invita la Marzotto, poi per ironia, no, ma certo. In giro quello che dice la Marzotto, cioè non ci vuole tantissimo, dai, è andata così. Però invece è più sottile, Giorgio, quello che lei diceva sulla democrazia, perché invece io qui sono molto serio, la menzogna in democrazia io la sostengo. Perché se la menzogna, lei ha detto Colin Powell, eccetera, guardando come esempio negativo perché avrebbe mentito sulla questione dell'Iraq, ma alle volte in democrazia la menzogna è funzionale per conservare il bene supremo che è la democrazia. Guardi che le dico. Ma anch'io la penso così, anch'io penso che... Ma questo sono serio su questo. In democrazia... La menzogna è funzionale a un regime autoritario e chiuso, la menzogna in democrazia, tolto il segreto di Stato che dopo alcuni anni dovrebbe essere, come dire, tolto e quant'altro, no? Però alle volte la menzogna in democrazia è necessaria. Sì, ho capito degli iracheni, però va bene, sì. No, adesso al di là dei casi singoli, stiamo parlando in generale, no, Giorgio. Ma ce ne sono tantissime, anche appunto l'ironia che si fa sulle 200 invitate adesso, cioè, ma quella è una giusta ironia, no, ma come si fa a non fare ironia su quello, Giorgio, mi scusi, come si fa a non fare dell'ironia e a ridere un po' sopra queste cose qui, poi ci rendiamo conto benissimo degli affari, dell'importanza di Gheddafi, chi non se ne rende conto, però insomma, queste cose fanno anche un po' sorridere, qualcuno si indigna, noi invece ci scherziamo sopra, mi sembra sia meglio, no, piuttosto dell'indignazione. Va bene, grazie per lo stato, saluto, comunque non sono Giorgio, andiamo avanti, buonasera. Bene, Roberto da Genova. Sì, buonasera. Dica, Roberto. Io volevo intervenire su l'importante ricordare la famiglia Gheddafi. La sentiamo molto male, deve parlare meglio. Sì, mi sente adesso, meglio? Sì, dica. Ecco, senta, volevo intervenire in questo. Un figlio di Gheddafi, adesso io non ricordo il nome perché sono talmente tanti che... ha lasciato praticamente un'insolvenza fraudolenta presso un importante hotel a Rapallo, provincia di Genova. Sì, 400.000 euro. Esatto, l'ambasciata ha fatto orecchio da mercante, non si è assolutamente interessata, e questa è una delle cose che volevo sottolineare. Un'altra, che la dice lunga anche circa il carattere di queste persone, è quello che è successo a Ginevra, presso l'Hotel President. Penso che lei sia al corrente di quello che è successo, la crisi con la Svizzera. Sì, certo. Dicendo. Ecco, un altro dato di fatto. Poi per ultimo concludo con quando hanno ricevuto quel terrorista della PNM, quello che ha fatto purtroppo con la tragedia incredibile, sì. In quanto rilasciato dal governo britannico perché l'hanno accolto con tutti gli onori, rientrato in Libia improvvisamente, è stato quasi miracolato e quindi adesso pare che ne abbia ancora per 10 anni. Morta nessuno, Roberto, allora conclusione, niente, a buon intenditor poche parole, penso che i fatti si commentino da soli, circa il carattere e l'attitudine di queste persone. Vabbè, Roberto, grazie, grazie. Caro Parenzo, sai chi c'è? Vittorio Sgarbi, ciao Vittorio. Eccolo. Eccoci qui. Grande professore, come stai? Bene, bene. Dove ti trovi, Vittorio? Dove stai? A Roma, sono venuto a vedere Gheddafi, ieri potevo mancare. Ma eri pure tu a ricevimento con Gheddafi? Tu, ricorda che tu, siccome sei troppo giovane, non sai che io sono il primo amico del popolo libico, perché nel 98 ho violato l'embargo insieme a Grauso partendo da Lampedusa. Ah, ricordo, sì, certo. Siamo arrivati in una Tripoli che aveva l'aeroporto di Sestato, dove nessuno poteva neanche dire di frequentare, conoscere, vedere Gheddafi. Se penso come era il mondo allora, è come io sono andato a sfidare gli americani, non tanto per ragioni ideologiche, ma perché impedivano con l'embargo di vedere i luoghi più belli del mondo, Leptis Magna, Cirene, non si poteva arrivare, cioè il danno era fatto non ai libici, ma al resto del mondo che non poteva andare in luoghi, come fare l'embargo a Venezia e a Pompei, cioè una stronzata colossale. Allora io partii, arrivammo accolti con grande fragore, entusiasmo e con la dichiarazione che andrebbe ricordata a Gheddafi. L'hai ricordata ieri, no? No, i giornali dissero: quello che nessun musulmano ha fatto per amore del popolo libico l'hanno fatto due cristiani. Cioè noi l'abbiamo fatto come cristiani, mentre i musulmani nessuno aveva osato mai dalla Nigeria, dall'Algeria, da dovunque, superare l'embargo con un volo. Ecco, aereo. Ma lo spunto quale fu? Quello di dimostrare che bisogna... No, per me era uno spunto iperdannunziano, cioè dimostrare che non è che per andare a vedere Leptis Magna devo avere il cerimoniale in quanto sono Sgarbi, andare in macchina e metterci 18 ore, passare il protocollo, chiedere l'autorizzazione per vedere, cioè io sono arrivato e a quel punto come Domidus della Libia ho visto tutti gli scavi tranquillamente, tutto quello di meraviglioso che gli italiani, e va ricordato, hanno dato alla Libia, cioè hanno recuperato con i nostri archeologi Sabratta, Leptis Magna, delle cose meravigliose e sublimi che peraltro sono, adesso non so come siano messe, ma erano all'epoca interdette ai visitatori e comunque impossibilitate l'accesso perché non si poteva arrivare in Libia se non con percorsi faticosissimi, partendo dall'Italia dovevi andare a Tunisi. Sì, a Tunisi prima. Era una cosa, era una tortura di Dio. Senti, ma sai che sindaco di Tripoli? Sindaco. Sì, sindaco di Tripoli, sì, sì, certo. Ci manca solo quello, c'era in prossimità di Gheddafi e di Berlusconi anche la Moratti. Che mi siamo guardati e salutati con insolito affetto, ma senza da parte mia. Non vi siete parlati, Parenzo? Qui c'è stato un incontro Sgarbi-Moratti ieri da Gheddafi. Non... Sono anche baciati, ma senza alcuna indulgenza da parte mia. Io non la prendo. Sgarbi e Gheddafi sono baciati. No, ero... Sgarbi e la Moratti. Sgarbi e la Moratti. No, poi ero questa è la notizia clamorosa. Più di Sgarbi che bacia Gheddafi. Sì, però non c'è stata la riconciliazione, Vittorio. No, beh, è stato così, solito. Tanto aveva dato anche la bottiglia d'oro a mia sorella, quindi da tempo ormai i rapporti sono umanamente normali, ma sul piano politico non la perdono e farò la lista contro di lei. Ah, confermi questa cosa, fai la lista contro di lei. Con la preoccupazione della Gelmini che era a tavola con me, dice: una poverina. Dico: ma quale poverina? Dico: ma dobbiamo fare dare un ministero alla Berlusconi che è specialista in ministeri fantasma, il ministero per l'attuazione del nulla o per l'attuazione dell'Expo, che è la stessa cosa, può darlo quello. Poi Napolitano firma la sua Vittorio, confermi che farai la lista che si chiamerà CL contro Letizia? CL, ma si chiamerà qualcosa di questo genere, sì, autonomi contro Letizia. Autonomi, oppure, insomma, la donna, meglio di la no. Donna è un'altra cosa. Rispetto a, no? Rispetto a. Rispetto alla Moratti. Sì. Rispetto alla Moratti. Non mi pare che... un posto dove non ti sei candidato, Vittorio? No, dappertutto mi sono candidato, sono il più candidato del mondo, sì. Senti, ma... Quello che ammiravo di Gheddafi era che lui aveva quella bella tunica bianca, il povero Berlusca, abbiamo commentato questo, era costretto nel suo solito taglierino blu, dico: ma dovevi metterti una giacca rossa? E lui? Devi fare una cosa, perché comincia di sentire i vari merdo, gli altri tordi che cominciano a dire: diamo l'Italia, la svendiamo a Gheddafi. Gheddafi è un personaggio pittoresco che fa il suo teatro, tu devi farlo ancora di più, vestirti di rosso, di viola, come David Bowie, cioè doveva essere... Poi se, la cosa straordinaria è che ieri sera alle 2 di notte è partito Gheddafi, Berlusconi ha cantato. Qualcuno spero che abbia registrato, e la novità è che canta benissimo. Ah, ecco, no, questo è curioso, cioè l'ho letto da qualche parte, che ha cantato in francese, una canzone francese? Ma che ha cantato? Una che non ho capito, Gilbert Beco, credo, ma l'ha cantata benissimo, con gli acuti giusti, perfetto. Ma dove l'ha cantata? Sempre là? No, sì, sempre alla caserma, lì. Dove c'era il pranzo, questo pranzone. Che avete mangiato, Vittorio, che avete mangiato? Io, ma abbiamo mangiato, io non so mai quello che mangio. Schifezze varie, insomma, che abbiamo mangiato. No, un po' soprattutto mi ricordo la Caprese, ma ero vicino alla figlia del Duce, quindi ero molto soddisfatto perché con me c'era Alessandra Mussolini, ragazza, chi c'era? Non ho capito. Si chiama Stefania Duce, che è la figlia di Alessandro Duce, che è uno dell'UDC che era con Martinazzoli, con Buttiglione. Allora ho detto, bisognerebbe sostituire Fini con il Duce. E avremo un grande vantaggio perché il Duce è comunque un democristiano in questo caso e sua figlia è formidabile. Quindi. E poi chi c'era accanto a te? C'era la figlia poi di. Poi c'era la Gelmini, poi c'era il povero Lusetti, poi c'era Manganelli. Perché povero Lusetti? Perché povero Lusetti? Perché Lusetti non è né carne né pesce, no? Che cos'è Lusetti? Che partito è? Che partito è lì, dell'UDC, no, API, no, UDC forse. Non lo sappiamo manco noi. Non lo sa neanche lui. Non lo sa nemmeno lui. Non gli è chiaro Lusetti così. Poi chi c'era al tavolo, al tuo tavolo? Poi c'era Manganelli, capo della polizia, De Gennaro, capo della polizia, il comandante generale dei carabinieri. Mamma mia, che noia! No, no, bella ragazza, era molto, è molto bella, accompagno la moglie di Manganelli, una bionda pre-raffaellitica. Poi c'era la bella ufficio stampa di Maroni, poi c'era la Gelmini con il suo sex appeal contenuto, e poi c'era la mia meravigliosa figlia del Duce, e quindi era un tavolo buono, anzi forse era il migliore, eravamo in prossimità di Berlusconi che cercava di rassicurare la Duce rispetto a me. Ma chi è stato? Io sai, non ho capito, sono ignorante, lo sai Vittorio, ma stato... Devi sapere, quando tu eri ragazzo c'era un famoso tesoriere della DC che si chiamava Citaristi. Ecco, no, questo lo so. Quando fu incriminato, prese il suo posto un democristiano di Parma che si chiama Alessandro Duce. Si chiama Duce ed era vicino a Buttiglione, vicino ai popolari. La figlia è questa. E poi a un certo punto è sparito, come è sparito Martinazzoli, sono tutti andati un po' alla deriva, è rimasto democristiano senza partito ed è apparso ieri, mio vecchio amico qual era, con una figlia meravigliosa, in perfetta forma. Che naturalmente si è seduta accanto a te. Mi sono occupato solo della figlia del Duce. Ma l'hai già presentata alla tua fidanzata? Non ancora, perché mia fidanzata non può venire, non viene a questi carnevali lei, quindi lei si è subito rifiutata di venire, riteneva non abbastanza elegante il pranzone di ieri sera, che in effetti era molto pittoresco, tipo un Luna Park. Però ho presentato la figlia del Duce a Berlusconi, il quale l'ha subito rassicurata sulle mie intenzioni, cioè ha detto stai attenta a Sgarbi, e gli ho proposto di sostituire Fini con il Duce. Se lo facesse, secondo me avrebbe molti più voti. Dice, abbiamo finalmente il Duce con noi e la destra finiana, perché in realtà questi hanno fatto Futuro e Libertà, dovevano fare Fascio e Libertà, perché con Futuro e Libertà non prendono niente, loro è partito Fascio e Libertà. Senti, però ti faccio ascoltare, Vittorio, la canzone che inaugurerà questa sera. Tu non ci potrai credere, l'ho fatta sentire prima a Parenzo ed era estasiato, perché comunque kitsch, molto kitsch. Però effettivamente questa sera c'è la festa, questa a Mirabello che fanno Futuro e Libertà, no? Ah sì, apri lì. E apri a Mirabello, senti qual è la colonna sonora di questa sera. Non ci puoi, c'è scritto nel programma, senti, agghiacciante. Vai. E vado in giro per il mondo da signore vagabondo. Ogni sera è piena di emozioni che trasmetto con il cuore. Se ho tanta voglia spingo e canto forte, poi sul tardi m'abbasso un po'. E le mie canzoni metto sempre una parte di me stesso, e chi ascolta capirà. Canto così, dalle emozioni il mio mestiere. Beh, per carità, con tutto rispetto per l'orchestra di Mister Domenico, questa è... Mister Domenico si chiama. Mister Domenico. Beh, io credo che lui poteva fare un beau geste, Fini, e chiedere di fare la colonna sonora a Berlusconi, che di sera si è mostrato molto più efficace di questo cantante, e poteva fargli il pezzo di apertura, certo, in francese magari, in francese, molto chic, perché in fondo uno fine aspira a essere Sarkozy, e quindi ma quando gli hai chiesto del vestito, perché non ti sei vestito di rosso anche tu eccetera, che ti ha risposto? Lo ha ammesso anche lui, che la cosa che più lo ha colpito ieri e lo ha messo in difficoltà, in effetti quando sono apparsi è apparso subito secondo rispetto al primo che era Gheddafi, e che Gheddafi potesse vestirsi come voleva, avesse questo bellissimo caftano bianco e lui il solito taglierino blu. Allora io ci ho pensato, per me, perché me l'aveva proposto Sabrina, ma non, voi ho detto, lei stessa me l'ha proposta, mettiti la giacca rossa. Io non l'ho messa perché ho una giacca rossa nuova che esibisco in circostanze misteriose e riservate. Beh, tanto tu vai vestito sempre allo stesso modo, più o meno. Appunto anch'io, ma anche lui, invece sia io che lui potevamo apparire in rosso, una bella giacca rossa fiamme, sarebbe stata il modo per mettere nell'angolo sia Gheddafi sia Merlo, per cui si capiva che tutto questo Francesco, era una gran festa di carnevale e non c'era niente di vero e di buono. Francesco Merlo. All'Islam, ma dica quello che vuole, cioè Gheddafi di per sé non è credibile se non perché stando lì dove è stato ha visto tutto, ha visto il terrorismo internazionale, ha visto gli americani che l'hanno bombardato. E quindi Gheddafi in realtà è il suo passato, non è il suo presente, è quello che è stato, ormai è stato metabolizzato, per cui piace anche gli americani. Parenzo, sai cosa ha detto oggi, come si chiama, Bersani, leader del Partito Democratico, a proposito che l'Italia è uscita dalla visita di Gheddafi umiliata? Ma quello non capisce niente. Ma è un po' eccessivo, umiliata. Umiliata da Bersani. Sembra, Bersani sembra la caricatura di Ferrini, quello di Arbore, sì. Era meraviglioso, sono quelle cose con quella lingua improbabile, con quell'accento, con quella, ma poi che gli italiani sono divertiti, hanno visto un po' di cavalli, poi quello può dire quello che vuole, chi se ne frega, se voglio 5 miliardi nessuno glieli dai e buonanotte, no? Che discorso è? Beh, no, l'Islam è la religione europea, le hostess, queste cose, le hostess come l'hai vista tu? Le hostess che vanno l'interpretazione diciamo corrente non è del tutto sbagliata, cioè lui aveva dimostrato che il costume delle donne italiane è così basso che possono essere comprate con 70 euro. In realtà non so se lui sapesse che erano state comprate con 70 euro, ma certo essere invitate a vedere Gheddafi giustifica la loro apparente disponibilità con il divertimento dello spettacolo, cioè chiunque, io stesso sono contento. Io pagherei, io pure, tu pagheresti, Parenzo? Abbiamo detto anche ieri. È teatro, quindi sono state pagate per vedere quello che potevano pagare loro 70 euro, se volete vedere Gheddafi pagate solo 70 euro, li avrebbero pagati perché era divertente vedere un personaggio così, che sembra un po' Bossi, sembra un po' un personaggio di un film, sembra Terence Hill, cioè sembra, c'è cioè un attore di un mondo in fondo lontano, anche se così vicino, e che ha poi stato al centro di questioni internazionali gravissime, poi perdonato, oggi per gli americani è l'unico filtro contro il terrorismo internazionale. Mi pare di capire che non ti indigni per niente, però la porno... Uno più è volgare, più lo si assolve, capito? Questo c'è da dire. Sì, pure, appunto, no. Però la pornostar che Vittorio Sgarbi vuole portare a Venezia, ce l'abbiamo o non può adesso? Dopo? Come dopo? Com'è possibile? Non è... Una ragazza ritrosa, io frequento solo ragazze ritrose, vedi, non la danno facilmente. No, che non la danno, l'abbiamo chiamata e fra poco ci sarà. Vabbè, Vittorio, ti richiamo quando c'è. Quando c'è, vabbè, ma io poi non sarò più disponibile. Perché? Per che voi, c'hai? Che fai? Dove devo scrivere l'articolo, devo scrivere un articolo su Dell'Utri. Un articolo? La vergogna su Dell'Utri. Sì, adesso lo faccio subito, però non so a che telefono farlo, voi potete chiamarmi all'altro, ti do l'altro. Aspetta. Dammi l'altro in diretta, no, però... Dallo in diretta, sì, 335. Sì, vaffanculo. Dammelo. No, se mi passi la tua redazione glielo passo, che non vorrei poi che mi chiamasse qualche aspirante candidata. No, ma tu sei uno democratico, no? Lo so, ma io devo rompere i coglioni con le telefonate che arrivano al numero fisso. No, ma tu, Vittorio, sei un Truman Show continuo, dovresti dare il tuo numero in diretta, scusa. Se lo do una per una va bene, ma sai se che dai... una volta avevo un'idea. Posso darlo il tuo numero? 335, posso? No, non si può, il numero di Sgarbi non si può. Negati, Parenzo. No, una volta io avevo convertiti a che? A che ne so? Alla poligamia, che cosa? No, perché lui sa che io sono un perfido sui Breone convertito all'Islam. No, allora. Però io una volta avevo un'idea, poi Vittoria sfuggente, eccetera, che è quella di raccontare ogni giorno la vita di Sgarbi, registrarla ogni giorno, certo. E poi riproporla come reality quotidiano. È vero. Ma c'è una ragazza che l'ha fatto 10 giorni di film della mia vita e poi si è fermata, si è stancata, però dov'è la roba, il materiale? Ce l'ha, ha fatto 350 ore, è una un reality della mia vita reale, sì, è vero, è piena di divertimento. La mattina a Venezia, mentre sistemo il soffitto di Tiziano a margine della mostra di Giorgione che ho fatto a Palazzo Grimani. Sì, magari ci sono cose più interessanti. Fa scendere le opere di Tiziano che io porterò quindi in esposizione, quindi non le avrei portate giù io, ma l'acqua le ha fatte scendere. Poi da lì parto per venire a Roma da Gheddafi e poi vado in Sicilia per risolvere i problemi di Salemi, insomma, è vero che aspetta un attimo, c'è Vittoria Risi, buonasera. Buonasera. Signora Risi, buonasera, come sta? Ciao Vittoria, come stai? Benissimo. Sono Parenzo, ti ricordi? No, ma come fa a ricordarsi di un di te? Dai, come la Risi l'abbiamo fatta spogliare a Telelombardia. Vabbè, avete fatto male, dovevate contenerla. Signora Risi, se lo ricorda Parenzo? Non se lo ricorda? Sì, sì, me lo ricordo benissimo. Allora risponda, perché qui Parenzo sennò si offende. Vittorio, cosa vuoi far fare a Vittoria? Scusami, tanto per capirci. Beh, intanto ha già fatto moltissimo non facendo niente, no? Che è pure importante riuscire. Ho parlato a lungo di lei con il cardinale patriarca. Il patriarca mi ha mandato il suo... No, questo non ci posso credere. Scusa, la signora Risi fa la pornostar. Noi parliamo di lei col patriarca. Cioè, allora, il patriarca manda il suo omesso, che è responsabile delle arti, a dirmi, ma ci sarà la signora Risi? Dico, ma adesso vediamo, perché mi ha detto il patriarca di dirle che l'effetto che lei voleva l'ha già ottenuto anche senza fare quell'azione. Dico, va bene, allora per questa sera soprassiedo. E quindi l'inaugurazione concorde la Risi, non abbiamo fatto la rappresentazione. Tra l'altro lei poteva sicuramente mostrare di essere offesa verso il professore delle pari opportunità, tale Grazia Agostini, che ha detto che introducendo lei a Palazzo Grimani l'avrei trasformato in un postribolo. Adesso intanto prenderei esempio da Palazzo Grazioli, dove cose analoghe sono accadute senza che nessuno si fosse preoccupato, se non Repubblica, quindi Palazzo Grimani come Palazzo Grazioli. Poi non capisco perché, se una donna si chiude in un convento, in un palazzo per fare la suora, nessuno dice niente. Se una donna invece si spoglia senza vendere il suo corpo, ma semplicemente per farlo vedere, questo è postribolo. Ora, siccome ognuno farà quello che vuole, nel fatto che una donna si metta il velo e si chiude in un convento, nulla da obiettare, anche se lo fa in nome di qualcosa che è incerto, cioè Dio rimane incerto. Mentre invece uno che mostra il suo corpo per il bene di tutti fa una cosa certa, che non porta danno a nessuno, e quindi non si capisce perché il moralismo... Concretamente, donna, che farà la signora Risi? No, una donna che poi si occupa di pari opportunità, per cui io ho detto che giustamente fa offesa dall'assessore la donna, e non domina, e non puttana o donna di postribolo, che Vittoria Risi ha detto non ci vado. Ma in realtà abbiamo semplicemente pensato di rimandare questa rappresentazione, che è affidata a un regista che si chiama Gianni De Luigi, che lei conosce bene, sì. E avendo lui per primo proposto a me una rappresentazione su Veronica Franco, cortigiana, come nel dipinto di Carpaccio, il tema delle cortigiane a Venezia, tutto accreditato, poteva da quello fare anche l'immagine della nuda. Semplicemente star ferma in una nicchia di questa bellissima tribuna del bellissimo Palazzo Grimani a fianco della Tempesta di Giorgione, che io ho messo con le altre opere di Giorgione per far entrare le persone, entrano poi 500 persone al giorno, Palazzo Grimani. No, ma sarà lì ferma, signora Risi, che farà? Sarà lì ferma a fare cosa, signora Risi? Sarò lì esposta come un'opera accanto alle opere, quindi nulla di volgare, anzi piena armonia con quello che sono le opere esposte. E nuda? Nuda? Sì, adesso lo dico. La nuda, no, perché la donna... La nuda ovviamente lo era già in pieno canal grande, quindi... Come? No, se lo dica, perché qui si sovrappongono le voci. Sarà nuda come nella rappresentazione? Come la rappresentazione che è stata per molti secoli anche in pieno Canal Grande, quindi all'epoca dove c'era la piena rappresentazione della figura sacra, c'era già comunque una nuda e veniva considerata arte. Non vedo perché in piena armonia con quello che sono le opere esposte non si possa esporre un corpo nudo. Vittorio, il patriarca, scusi un attimo, il patriarca si arrabbierà per questa cosa o no? No, il patriarca... che ho trovato poi dopo che mi ha mandato il suo messo, la sera dopo la provvidenza divina ha mandato l'incendio alla salute, e allora io sono corso per primo per vedere la situazione delle opere d'arte, siamo entrati poi in chiesa, caro Sgarbi, bravo perché non hai esposto, ma mi raccomando è inutile farlo perché tanto quello che dovevo ottenere l'ha già ottenuto, cioè un gran parlare della cosa come stiamo facendo noi, gran parte penso delle opere d'arte oggi e di quello che se ne dice, non quello che sono. In realtà questo che io ho in mente non è più un'opera d'arte, neanche comunicazione, è teatro, tableau vivant, cioè l'idea che una nuda sul Canal Grande, sensuale come quella di Giorgione e vista davanti al mondo, con significati allegorici incerti, ma comunque nuda e allora in perfetta visibilità perché è rimasta 430 anni esposta, dipinta nel 1508. E il sindaco di Venezia che ne pensa? Mi sa sindaco che non è. Il sindaco si è messo a ridere quando io, presentando la mostra con lui, che è venuto alla presentazione e ha parlato, ho detto che la Risi era molto offesa con lui e con l'assessore alla cultura, alla pari opportunità, che avevano fatto le loro dichiarazioni negative, e quindi si è messo a ridere. Si è offesa lei, signora Risi? Beh, in effetti, che se ne dica, la mia è una professione scelta da me, non c'è nessuno che mi dice quello che devo fare come in una lei fa la pornostar, lei fa la pornostar perché ha deciso di fare la pornostar, perché guadagna quindi facendo questo. Scelta, io avevo già fatto i miei studi, stavo facendo l'agente immobiliare, quello che ho scelto è una mia libera scelta di espormi e di mettermi davanti agli occhi degli uomini o delle donne che mi vuol vedere nuda. Allora andiamo a sentire i titoli dei telegiornali, poi chi c'è, se Sgarbi deve scrivere bene, se Parenzo deve andare a lavorare con Telese, sai che lavora con Telese adesso, Vittorio? Comunque bisogna dire anche un'altra cosa prima di chiudere, che c'è nudo e nudo, perché il nudo di Soldoni va bene, il nudo dell'Abramovic era il 74 quando sì. Io ero studente a Bologna, si esponeva nuda alla Galleria d'Arte Moderna di Roma, una donna molto bella che ha avuto una gran carriera come artista e è sembrato che come avanguardia andasse bene. Ora, perché il nudo di quella meno bella di Vittoria andava bene, il nudo di Vittoria va bene per una questione nominale, esattamente come dell'Utri, cioè se i diari di Mussolini li presenta Magris sono autentici, se il nudo è di un artista va bene, se il nudo è di una pornostar non va bene perché diventa pornografico, sì. Se i diari li presenta Dell'Utri non sono buoni. Vabbè, tu però sei in conflitto di interessi su Dell'Utri, però, c'è tua sorella Bompiani. No, proprio il conflitto, no, è che la credibilità del fatto in sé diventa discutibile perché tu ti chiami pornostar. No, ma io sono su questo sono d'accordo al 100%, però sui diari di Dell'Utri sei in contraddizione, sei in conflitto di interessi perché tua sorella è... No, ma a parte no, non parlavo della polemica dell'altro giorno. No, lo so. Ho presentato i Magris, citati. No, ma questo non c'è dubbio, però... Discute il presentatore, non la cosa. Sì, lo sai che ha chiamato Lusetti per arrabbiato con te per questa roba qua. Ci ha chiamato, stava ascoltando, ci ha chiamato dicendo: non è vero che non sono né carne né pesce, che non sa manco lui dove sto. Ha chiamato Lusetti. Io so che lui è benissimo nell'udizione. L'onorevole Lusetti, scherzavamo. Eravate voi a non saperlo. Vittorio, Capre, com'era? Capra, Capre. Non sapere dov'è Lusetti. Ma lo sapevamo, stavamo scherzando, onorevole Lusetti. Lusetti nudo. Pubblicità. La Zanzara. Tutti a Palazzo Grazioli per il processo breve che Berlusconi considera il provvedimento indispensabile per la vita del governo. Ma cosa deve fare il premier con Fini? Fare la pace o divorzio? Ci parleranno Belpietro e Feltri. Gheddafi divide la politica, mai più questo show nel nostro paese. Ma al ricevimento per il Rais c'è tutta l'Italia che conta. Via la mafia dallo Stato, parola d'ordine a Como, Dell'Utri non deve parlare. Di Pietro lo contesteremo ovunque, Casini pronti a coglierlo. Lo hanno ucciso di botte, accusa la madre di Daniele Franceschi dopo aver visto il corpo del figlio in un carcere della Costa Azzurra. Calcio Super Milan, dopo Ibra arriva Robinho e la Roma soffia in extremis Borriello alla Juve. Ecco gli ultimi colpi prima della chiusura del mercato. Vittorio ha fatto il botto Mentana, primo giorno. Cioè, cosa ha fatto? Beh, 7,5%. 7,5%. Beh, buono, era giusto che lo facesse. D'altra parte è quello che può fare la 7, si chiama 7 per quello. No, beh, adesso pare qualcuno dice che potrebbe fare molto, molto di più. Dal terzo polo. Comunque il 7 era stato toccato anche da altri, è una misura... No, la TG della 7 no. Fammi dire una cosa telegrafica su Dell'Utri e poi me ne vado. Dimmi, Parenzo. Vado a lavorare. La contestazione a Dell'Utri è tecnicamente sbagliata perché il senatore parlava dei diari segreti di Mussolini. Sì. Quindi è stupido contestare un uomo come lui che fa politica, ma è anche un uomo di cultura che racconta questa scoperta che lui avrebbe fatto. La contestazione sarebbe stata invece positiva se Dell'Utri avesse parlato di mafia. Cioè Dell'Utri che parla di lotta alla mafia è come mettere un gatto a guardia del ristorante del pesce. Dell'Utri che invece parla dei diari di Mussolini mi pare innocuo, ecco perché è stupida la protesta. Vabbè, tu sei troppo... Per l'oggetto. Sì, per l'oggetto, ma anche se dovesse parlare di mafia, abbi pazienza. Adesso io Però lì la contestazione ci sta. La voglio dire grossa. Ma potrà parlare di mafia Dell'Utri? Sarà libero certo di parlare... Può, però lì c'è più diritto a contestarlo. Sì, ma per carità, ma certo... Parla di una cosa nella quale insomma, un minimo di conflitto di interessi c'è, se non altro perché c'è il processo, non perché è colpevole, aspetteremo il terzo grado di giudizio. Però lì la contestazione è politica, no? Ma la contestazione è l'uomo dell'Utri non può parlare perché è stato condannato due volte. No, dell'Utri non può parlare, è una stronzata. Dell'Utri che parla di mafia può essere contestato, anzi deve essere contestato, secondo me. Sgarbi, tu che dici? È nella democrazia. Vittorio. No, la questione è... Ma è vero, non sei d'accordo o no, Vittorio? L'ho già detto prima, nel senso che qui si stabilisce un giudizio ontologico relativamente alla presunzione della sua mafiosità, e quindi su quello si può dire che se Riina pretende di fare una conferenza uno può contestargli il diritto di parlare. Però qui il problema non riguarda Dell'Utri, riguarda Mussolini, cioè questi diari che sono sicuramente buoni, che mia sorella è del tutto indifferente al fatto che lo siano, li pubblica perché sono un caso, se fossero presentati da De Felice, da Magris, da Citati, da Scalzo... Però non è un caso che non c'è nessuno storico che li ha accreditati. No, lo stesso, che non sono storico, ma il fatto però che questo, si peggiora la loro condizione, a parte che c'è Farrell che è l'unico che ne capisce qualcosa, che dice Nicola che sono Farrell, ottimi. Certo, Farrell lo dice. Quindi, ma io voglio, non voglio, la ragione mia sorella non si entra nel merito, solo un pirla come te entra nel merito, si pubblicano perché un editore pubblica anche una cosa che non gli piace, perché vende come te il pirla si permette di entrare nel merito, riferita a me, la contestazione è stupida, no, perché è inutile che tu, mia sorella fa un'operazione che non c'entra niente, ma a me l'ha dato il pirla, ma non riguarda lei, non riguarda, ma guarda Vittorio, guarda che io con tua sorella, quando ho parlato con tua sorella, quando ti vede ti mangia vivo, lo so, però guarda che è lei che ha sbagliato comunicazione. Ma adesso questo io non lo so, non l'ho sentita, poi lei è un tipo strano nei suoi comportamenti, però lei ha fatto un'operazione editoriale, ma questo infatti è legittimo. Copie, eh? Avrà fatto bene, cioè Berlusconi vende Ginsborg, vende Saviano ed è contento, perché Saviano gli sta sui coglioni, ma non gli importa nulla, cioè l'editore non deve essere d'accordo con il testo, né con la verità del testo, questo però riguarda, io parlavo di Dell'Utri, invece è convinto che siano buoni, sì. Però siccome è svalutato sul piano etico, non è credibile neanche su Mussolini, e questa è la cosa grave di quella cosa. No, ma la contestazione non era su questo. No, quella, ma la contestazione non è su questo. Però scusate un attimo, io voglio capire da Donato Supino, che è consigliere comunale a Como per la Federazione della Sinistra. Buonasera. Buonasera. Lei era lì a contestare Dell'Utri. Io sono incazzato come una bestia su questa cosa, Supino, perché non si può impedire alle persone di parlare. Com'è possibile questa cosa? Voi di Rifondazione Comunista, la Federazione della Sinistra, la Tolleranza, le cose, impedite a Dell'Utri di parlare, una cosa assurda, mi spieghi? Cerchi di darmi una spiegazione di questo. Perché prendo atto che lei è arrabbiato per la questione che non ha parlato Dell'Utri. Allora, la spiegazione, le cose stanno in questo senso, perché vedo che ci sono anche delle cose non veritiere, per esempio le dichiarazioni Dell'Utri, una cosa organizzata in termini per non farlo parlare. Vabbè, non l'avete fatto parlare. Ma aspetta, senti, la storia delle cose bisogna raccontare, perché ognuno si crea le proprie opinioni su questo. Noi abbiamo organizzato una presenza di protesta rispetto a due questioni importanti. Una era la questione del fatto di fatto che una persona condannata in secondo grado per associazione esterna all'associazione mafiosa, e dall'altra parte è chiaro, è uno che esalta Vittorio Mangano. Okay, ma che c'entra questo qua? Che c'entra con Mussolini? No, scusi. Aspetta un attimo, su due cose dove la gente ha contestato, se vuoi sapere le cose come sono andate. Qual è l'altra cosa? Cosa c'entra con Mussolini? Allora, il personaggio non è un personaggio sotto il punto di vista della etica affidabile, sotto questa, ho capito, ma allora, questa è una cosa, scusi Supino, questa è una cosa che decidono gli organizzatori di quel convegno, sì, là, se è affidabile o no. Gli organizzatori, poi arriviamo, ma non è che lo decide lei, non è che lo decide lei chi è affidabile o chi non è affidabile, uno parla anche, no, io le sto dicendo la mia opinione, poi dopodiché è chiaro che è vero questo, che non lo decido io, io le sto dicendo la mia opinione, ma in grandissima parte di chi l'ha contestato. È una persona sotto il punto di vista condannata al secondo grado per associazione esterna, questo lo sappiamo, sì, allora... all'organizzazione mafiosa, perlomeno c'è una questione di opportunità sotto questo aspetto. L'altra questione, sui diari di Mussolini. Noi, cioè, opportunità presenti, che uno... cosa? A parlare in pubblico? Non può parlare in pubblico uno condannato? Opportunità. Ma ho capito, Supino, non è questione di opportunità. Ma lei qui... sa che sotto nuovo ospedale Sant'Anna, lei sa che sotto il nuovo ospedale Sant'Anna ci sono detriti tossici, perché un'impresa insieme a associazioni mafiose hanno portato lì detriti tossici, dove questa città... Scusi, ma che c'entra? Che la mafia era inserita in questa città. Ma che c'entra, Supino? Cosa c'entra con Dell'Utri? Pubblica, l'opinione pubblica sotto questo punto di vista non sta a dormire, meno male su questo, meno male. Poi guardi, più la sento Supino, io più la sento più mi convinco che insomma lei, avete fatto una cosa assurda, abbia pazienza, devo dare la pubblicità, un secondo e torno subito. Prego. La Zanzara. Allora, l'altra cosa qual è, Supino? Non ho capito l'altra protesta su che cosa? Sulla veridicità? Allora, una era sul personaggio. Ah, il personaggio, l'abbiamo capito. L'altra è sui diari. Allora, sulla questione dei diari. Ma che ne sa lei di questi diari? Non lo so manco io, lo sa lei che... Cosa? Che ne sa di questi diari, veri veri? No, ma permette un attimo. Allora, siccome ha tentato parecchie volte di valutare la figura di Mussolini, cioè con dichiarazione a sostegno del fascismo su Mussolini. Ma chi? Dell'Utri a sostegno di Mussolini? Ma dove l'ha sentita sta cosa? Nelle varie impostazioni sue del ragionamento, esaltare un po' la figura di Mussolini. Noi riteniamo, ma non mi sembra, Supino, questa è sbagliata, non l'ha detto. Noi riteniamo che Mussolini rappresenta per questo paese, per questa Italia, rappresenta la guerra, le deportazioni, l'iniziale e la miseria. Questa è la storia di Mussolini. Ho capito, ma Dell'Utri non esalta Mussolini. C'è un altro tipo di lavoro intorno a questa roba dei diari, veri o non veri? Cosa diceva Mussolini in quelle cose? Supino, comunque, al di là di quello che lei pensa di Mussolini, di Dell'Utri, eccetera, uno ha diritto di fare una riunione in pubblico, una conferenza, una presentazione, certo, un convegno, certo, o no? Ma questo le garantisco che non è... Ho capito, ma non poteva parlare. Non era organizzata. Ma non poteva, lasci perdere, organizzata, spontanea, non l'avete fatto parlare. Ma è stata la gente, non c'era né. Come la gente? Che significa la gente? La gente. Dagli anziani agli studenti di Como, non è che erano gente organizzata, venuto da fuori. Vabbè, Supino, adesso al di là di questo, ma lei le pare corretto che questo non ha potuto parlare? No, non le sto dicendo questo, anzi, tra l'altro, le dico già adesso, tra l'altro che dice, che mi dice? Nelle sue ultime dichiarazioni, dice che lui rifarà questa cosa, ma per me la può fare. Però la cosa mi sembrava giusta è che noi ci indignavamo rispetto all'opportunità di questo parlarsi. E tenga presente che Parolari ha preso finanziamento degli enti pubblici. E allora? La regione Lombardia e mi sembra anche dalla provincia di Como. Vabbè, ecco, ho capito. Allora, io penso che andavano speso diversamente, va bene? Cioè, il personaggio Dell'Utri, penso che non era opportuno che parlasse con i soldi dei cittadini. Sgarbi, 30 secondi, perché ho il traffico, poi... Niente, le opinioni che abbiamo sentito corrispondono a una valutazione di tipo etico, non di tipo... conoscitivo. Un libro, qualunque libro o qualunque tema può essere affrontato, siccome la condanna di Dell'Utri non è definitiva, non c'è ancora un pregiudizio morale che gli impedisca di parlare, ma è un pregiudizio di natura, come dire, preventiva, cioè lui non può parlare, c'è un essere inferiore al mondo, c'è una forma di razzismo, un razzismo culturale, tu non puoi parlare, non è sei vero. Spregevole, sei un uomo spregevole, cioè la cosa sgradevole di quello che hanno fatto riguarda il fatto umano, perché non importa nulla che uno sia colpevole o innocente, hanno fatto parlare Vallanzasca che ha ucciso persone, hanno fatto parlare Boldrini, il comunista che ha ucciso 200 persone. Vallanzasca viene intervistato ogni giorno. Ucciso. Quindi si vergognano al mondo comunista, si vergognano di Fidel Castro. Fidel Castro viene in Italia, lo farebbero parlare. Si vergognano. Sono razzisti. Quello che hanno fatto è contro la natura dell'uomo. L'uomo può parlare, ha diritto a parlare, chiunque sia, anche un avanzo di galera. Si abbia rispetto della persona. Supino, presidente del Consiglio, che fosse più democratico. Ma che c'entra Gheddafi adesso, Supino? Che c'entra Gheddafi? Supino, un attimo. Che andava la Ceausescu e D'Alema che stava con Milosevic, come li mettiamo? Supino, abbia pazienza, il problema è semplice. Sgarbi dice, voi nei confronti Dell'Utri avete una sorta di razzismo, perché in Italia possono... Allora, non era preparata, questa è stata una... Ma che c'entra la preparazione? Adesso non lasci perdere questa preparazione, a parte che era preparatissima, Supino, preparatissima, non preparata, preparatissima. La presenza di protesta, ma non era per non farlo parlare. Poi dopo questo è chiaro che è venuto spontanea chi era presente lì. Perché è vero, la cosa lì contraria, che non c'è stato nessuno che si è indignato per difenderlo. Allora, il mondo è pieno di vigliacchi. Qui nessuno, perché poi Supino nessuno lo sa perché. Però Supino, lasci perdere. Il problema lo sa. Sì, Supino, su questo può avere anche ragione. Sta subendo nell'impianto dell'impresa, l'associazione mafiosa all'interno dell'impresa sta diventando una cosa seria. Il consiglio comunale ha fatto consiglio straordinario su questa cosa. Sì, ma guardi che cosa ne dice su questo? Ma guardi, Supino, guardi che sgarbi su queste cittadini che non possibile passarci sopra. Guardi, supino, che sgarbi su queste cose delle infiltrazioni criminali in Sicilia, eccetera, l'eolico, eccetera. Combatte ogni giorno, per cui non è, il punto non è questo. Ma no, ma io non mi voglio contrapporre a Sgarbi. No, ma non è che sia il difensore della mafia, io Sgarbi. Non sono neanche all'altezza, io non sono neanche all'altezza. Ma no, ma non è questione di questo, è una questione molto semplice. C'è una conferenza di presentazione di una di alcune cose, di alcuni diari veri, non veri, eccetera. Una serie di riunioni di persone che si riuniscono per una cosa del genere e 50, 100, quanti eravate, Supino? Quanti eravate lì a protestare? Beh, io credo che eravamo molti di più di 200. Vabbè, molti di più di 200, 300, 400 persone che impediscono alle persone di ascoltare, alle persone di parlare, e io questa la trovo una cosa folle. Uno può parlare, contestare benissimo, non impedire alle persone di parlare. Guarda, io rispetto benissimo la sua opinione. No, infatti, il fatto che si dà una parola a una persona dove è esaltato Mangano. Su questo noi esaltiamo i nostri personaggi, da Falcone a Libero Grassi, da Puglisi e quant'altri hanno combattuto la mafia. Vabbè. Beh, noi siamo da quest'altra parte. Ma sì, vabbè, lei, da, lei, a lei non piace Dell'Utri, però lo lasci parlare. 20 a 20, traffico. Siamo qui, voglio lasciare liberi tutti. Parenzo, sai cosa ha detto Galliani adesso? Non vedevo Berlusconi così innamorato da tantissimo tempo. Eh beh, lui lo conosce bene, eh? Innamorato del Milan, eh? Innamorato del Milan, perché abbiamo preso Robinho e Ibrahimovic. Non lo vedevo così appassionato, innamorato da tanto tempo. Voglio chiedere a Sgarbi se ieri se Berlusconi era così raggiante. Io vi saluto intanto perché è arrivato. Ciao, Davide. Della Vai, Davide, ciao. Era così raggiante per il Milan, Ibrahimovic e Robinho? No, allora, non era di gran buon umore. Era reduce da una visione sgradevole delle violenze fatte dagli italiani ai libici, quindi mi ha detto che si sentiva molto turbato da quello che aveva visto. Poi aveva anche il confronto con questo gigante dello spettacolo e quindi aveva un doppio complesso. Insomma, vuoi dire qualcosa alla signora Risi, che è qui ancora con noi? No, volevo chiudere questo argomento che, come vedi, come te l'avevo detto fin dall'inizio, tutto questo che sta capitando su Dell'Utri serve a vendere il libro. I libri saranno vendutissimi, si aprirà ogni volta il caso, quindi ogni volta che c'è una censura o un'operazione di questo genere... Se vuol dire che tua sorella alla fine ha fatto una cosa... L'operazione è puramente di mercato editoriale, da questo punto di vista è stata... No, ma questo sicuro, questo sicuro. No, quindi ogni volta che capita una cosa di questo genere, viene fuori che tra... Avete fatto un favore al libro, Supino, ha capito? Avete fatto un favore alla vendita dei diari di Mussolini. Molto di più, tutta questa operazione, ogni volta che c'è un atto di intolleranza... si favorisce quello che è stato costretto a tacere, cioè diventa un oggetto di interesse, di curiosità. Cioè, la cosa migliore è il silenzio. Se una cosa non ti piace, devi ignorarla. Se tu la sottolinei, io mi ricordo quando l'arcivescovo di Forlì mi chiamò per chiedermi cosa poteva fare per una cosa d'arte che era in una sua sede, c'è uno che per un quarto d'ora nudo si masturba, dico lo lasci finire Eminenza, perché se lo interrompe è peggio, e infatti se l'avesse interrotto si sarebbe parlato soltanto di questo. Chissà che qualcuno non protesti pure per il nudo della signora Risi quando ci sarà. Anche lì, se tutti avessero preso questa cosa nella sua dimensione più semplice, vedi che il collegamento con Dell'Utri funzionava, non valutando la categoria ontologica della pornostar, è una bella donna che sta nuda, come è nuda, siccome l'arte è vita, nuda è la nuda di Giorgione, nuda è lei, e deve incontrarlo vivante. No, è la pornostar che subito turba la mente dell'assessore, se la pornostar è una figura negativa socialmente, tutte balle poi, è una forma di umiliazione della donna, è una forma, tutte queste stronzate, per cui uno può vendere la mano, vendere qualunque parte del corpo, andare in un convento, ma non può fare la pornostar, ma saranno cazzi suoi in senso tecnico. Signora Risi, cosa le ha dato più fastidio delle parole dell'assessore di Venezia, anche in parte del sindaco? Quella cosa che le ha dato più fastidio? Beh, ovviamente la parola prostituzione, assolutamente. Non è detto che perché una si espone davanti a una telecamera, io comunque prima di tutto sono un'attrice, che poi lo faccio in maniera hard, è una cosa che non è prostituzione, è una mia scelta, e dietro c'è comunque professionalità, ecco, in tutto quello che faccio. Ma quando ci sarà questa cosa? Adesso avete deciso o no? Vittorio, decidete. A parte che voglio dire, se tu pensi anche a personaggi oggi molto ammirati come la Spenek. Sì, ma si può decidere qua o no? Si può decidere? No, lo faremo, no, entro il tempo della mostra, decidiamo poi come impostarla, ma sarà comunque sorprendente, cioè avremo una Risi nuda oppure vestitissima, ma faremo quello che ci pare, cioè non ascolteremo le suggestioni moralistiche di persone che ci spiegano quello che dobbiamo fare, come dobbiamo vivere. Perché nelle case dove Giorgione dipingeva, sì, il clima era esattamente quello della libertà e della sfrenatezza. Non c'era nessuna logica di assessore che dice si fa e non si fa. Stiano a casa loro a insegnare ai loro bambini come devono vivere e non giudichino la vita degli altri. Questa mania di dire si fa e non si fa. La nuda è nuda e uno fa quello che gli pare, quindi noi faremo uno spettacolo che sarà sorprendente. Io ho proposto di spiegarsi anche all'assessore, se vuole venire si può spogliare lei, quindi non vedo, nasciamo nudi. Signora Risi, lei che dice? Sì, lo farebbe un tableau vivant insieme all'assessore di Venezia, sì? Beh, ma perché no? Io penso che l'assessore prima di tutto dovrebbe conoscermi come persona. Può darsi anche che, non so, posso anche fargli cambiare idea su quello che pensa su di me eventualmente. Beh, io penso proprio che lei le armi per far cambiare idea l'assessore ce le abbia. E vabbè, Vittorio, a presto. Poi la sera che lo facciamo, vi avviso, venite anche voi. E come no, certo. Signora Risi, grazie, grazie. Cruciani nudo no, fino a questo, ancora no. Va bene. Ciao. Comunque, ciao, Vittorio, ciao. Guarda che non sarei un brutto spettacolo, Cara Vittoria, però Vittoria pensa che bel nome che ha. Vittoria è bella, intelligente, sensibile. Vittoria, beh, questo anche qui sei in conflitto di interessi come prima. Sei sempre in conflitto di interessi. Grazie, bella grazie Vittoria. Signora Risi, grazie, grazie. Grazie. Enrico da Milano, buonasera. Io? Eccoci qui, sì, dica. Ah, ecco, è tanto che aspetto, ho seguito la trasmissione. Che spero si sia divertito. Tantissimo, l'ascolto sempre, dottor Cruciani, la sera lei. Però volevo dirle, a proposito dell'utri, io guardi, ora prima lei quando parlava con Supino, che non vorrei che fosse quasi un po' controinformazione, perché io quando ho visto i filmati, io sono a Milano, sono toscano, però ho visto due amici, forse amici no, molto conoscenti, che fanno parte della Lega, e contestavano dell'utri. Può darsi, hanno fatto male. Non lo so, però voglio dire... Cioè, non hanno fatto male a contestare, attenzione, il punto è diverso, uno può contestare quello che vuole, scendere in piazza con le bandiere, gridare, urlare, il problema è uno solo, dove si svolge la presentazione di un libro, ma qualsiasi cosa, impedire a qualcuno di farlo, perché di fatto questo è successo, mi sembra una cazzata, punto. Sì, oltre che una cosa antidemocratica, è quello che vogliamo, sì, possiamo... Ha ragione, dottor Cruciani, la condivido in pieno. I libri di Dell'Utri, i libri di Mussolini, i diari, c'era anche l'Elemora. Se ci andava l'Elemora, pare di no, non lo so, non si sa bene questa cosa. Comunque, sì, quello che se è... ci andava l'Elemora era un circo, altro che proteste. Secondo me, però, una cosa, mi scusi se mi permetto, guardi, e l'ascolto tutte le sere con piacere, dire che però che era stato organizzato dalla sinistra, dai comunisti, secondo me. Ma io non ho detto dei comunisti, c'era in mezzo Rifondazione Comunista locale o comunque la Federazione della Sinistra, poi c'erano stati persone indignate per la presenza di Dell'Utri, adesso non do mica una colorazione politica a questo. Ecco, che poi le persone cavalchino come stanno facendo con Gheddafi ora, tanto... Vabbè, le due cose sono diverse però, Gheddafi... No, per l'amor del cielo, comunque che a volte si cavalchi un po' l'evento per farne poi voti o qualcosa, o critiche... Però insomma io ho visto persone che conosco, le garantisco, persone bravissime che vedo anche ogni tanto, che sono appartenenti ai circoli della Lega lì vicino. Che protestava, anche la Lega protestava su questo, anche i leghisti. Perché probabilmente lui è così, lui anche su un filmato. Ma lei che stava facendo là? Ma io che stavo facendo, l'ho visto in TV. Ah, in TV ha visto persone che ha riconosciuto come leghisti locali, diciamo. Come le dicono persone che favoriscono proprio la Lega, sì, hanno questa idea politica. Ho capito, va bene, grazie, abbiamo la borsa. Eccoci, la canzone? Dov'è? La canzone, Mister Domenico, la voglio. Andiamo. Canto e vado in giro per il mondo da signore vagabondo. Ogni sera è piena di emozioni che trasmetto con il cuore. Se ho tanta voglia spingo e canto forte, poi sul tardi m'abbasso un po'. E le mie canzoni metto sempre una parte di me stesso e chi ascolta capirà. Canto così, dalle emozioni il mio mestiere. Amori già spenti, riaccendersi con le mie canzoni, canto così. gli amori già spenti che si riaccendono con le sue canzoni, non so se basteranno tra Fini e Berlusconi. 20:33, questo è Mister Domenico. Questa sera aprirà la festa di Mirabello di Futuro e Libertà, anche se però non è proprio la festa di Futuro e Libertà, insomma la kermesse dei finiani. Alessandro da Napoli, buonasera. Pronto? Buonasera Alessandro, dica. Buonasera, salve. Io l'ho contattata per intervenire su Dell'Utri. Io volevo dire che lei e anche Sgarbi, secondo me, fate un errore di fondo quando, diciamo, date un po' dei fascistoidi a chi ha impedito, secondo voi, a Dell'Utri di parlare. Non è questione di impedire a una persona di parlare quando si alza la voce per dissentire. Si dissente, non hanno messo un bavaglio, non hanno tolto il microfono. Sono cose che forse lei non ha visto le immagini, Alessandro. Sono anche in Parlamento. Forse no? Lei non ha visto le immagini. Dei giorni fatte anche da persone che insomma abbiamo votato. Alessandro, ma non lasci perdere i paragoni. Lei non ha visto le immagini, ma perché io non voglio dire che sia stata usata violenza, che sono cioè la violenza è anche nell'impedire che avvenga una cosa, cioè non c'è solo la violenza fisica. Guardi, non hanno invaso la sala, non hanno chiuso le porte. Ma non ha là 2 metri, non c'era bisogno di invadere la sala, erano 3 metri. Cioè, se uno si sovrappone con le voci, si avvicina, poi quello è solo caciara, ed è una forma molto sottile nell'ambito della democrazia di, diciamo, far prevalere le proprie idee, senza violenza e senza sopruso. Guardi che la violenza e il sopruso, Alessandro, non sono solamente cose fisiche, non sono solamente prendere a bastonate qualcuno. Se uno organizza un sit-in per impedire a Dell'Utri di parlare dei diari di Mussolini o di qualsiasi altra cosa, sarebbe stato lo stesso, dicendo mafioso, vai in galera e tutto. Secondo me è un fascista, punto. Allora qua però entra un discorso che, mi scusi se glielo chiedo, ma lei è antifascista? Certo che sono antifascista, che discorsi sono? Certo che sono antifascista a 100 carati, abbia pazienza Alessandro, che significa sono antifascista? Sono contro il fascismo, contro qualsiasi dittatura, sono antifascista come sono anticomunista? No, mi scusi, non commettiamo l'errore, se lei è antifascista vuol dire... Lei è contro la ricostituzione di un partito politico? Quelle sono due cose diverse, come lei sa bene. Sono due cose molto diverse. Argomento, perché lei ha ragione, non voglio andare fuori tempo. Le voglio dire semplicemente che è razzismo. Cosa? Fascisti oggi. Essere antifascisti è razzista. Abbiamo accettato che rientrassero in Italia. Guardi, Alessandro, io sono antifascista nel senso che lei ha capito benissimo, lei vuole insistere, sono contro qualsiasi tipo. Sono antifascista anche io. Ma io non sono antifascista nel senso più deteriore del termine, cioè che dicono sono antifascista. Di un partito fascista in Italia non ci può essere per legge, perché la Costituzione prevede che non ci Ma insomma il punto qual è? Il punto è proprio questo, che nel momento in cui uno fa un sopruso si può dire che impedisce un'altra persona di godere di un proprio diritto. Sì. Ma invece nel caso di Dell'Utri semplicemente c'è stata una forte forma di dissenso, secondo me. Perché Dell'Utri... Si guardi bene le immagini, guardi bene le immagini. Se andassero per completare la sua opera e parlare, dire e fare. Evidentemente no, non credo che si sia atteggiato a vittima, in questo caso non gliene frega niente, voleva parlare dei diari, era stato invitato lì per parlare di questo. Non lo so, insomma, io ho capito questo, poi magari mi sbaglio. Secondo lei si è atteggiato a vittima? No. Non si è atteggiato a vittima, semplicemente se n'è andato. Chi se ne va perde sempre. Beh, dipende però, Alessandro, dipende dalle situazioni, dal contesto. Importanti da esprimere, avrebbe dovuto accettare il confronto e aspettare che ognuno di quelli che purtroppo si è trovato di fronte sbollisse gli animi per poi, diciamo, attivarsi. È una cosa difficile, io me ne rendo conto, però la politica non è una cosa semplice. Salire su un palco... Sì, ma era impossibile, Alessandro, confrontarsi con certe persone che ti urlano addosso, mafioso, quello, quell'altro, che ti impediscono di parlare, appena iniziava a parlare Armando Torno, che stavo tanti anni qui al Sole 24 Ore, adesso al Corriere della Sera, che era uno che moderava, insomma non lo facevano parlare, insomma sono cose che succedono all'ordine del giorno anche non è vero che succedono all'ordine del giorno, non è che ogni giorno si interrompono le conferenze o gli incontri. Non succedono, lei non le ha mai viste? Sì, possono succedere, non è che all'ordine del giorno la gente va per strada a interrompere i convegni in nome. Ma stiamo scherzando, il dissenso, non lo si può negare, perché si diventa... Ma chi lo nega il dissenso? Ho capito, ma qui si impedisce a qualcuno di parlare, un'altra cosa... Confonde, mi dispiace. Vabbè, ma per carità, ma ognuno la pensa come vuole. Lei, secondo lei fare un sit-in con 300 persone che ti inveiscono addosso, sono lì a 3 metri, stai zitto, non parlare, eccetera, è una cosa normale? Secondo me non è una cosa normale. Io lo penso perché in Parlamento ho visto anche di peggio. Ma sì, vabbè, ma questo qua è benaltrismo, lasciamo perdere il Parlamento. Italiano degli italiani. Sì, Alessandro, peggio o meglio, non sono in questo senso, in questo caso non sono categorie che non si possono utilizzare, peggio o meglio e anche i paragoni con quello che succede in Parlamento. Uno prende a modello quello che vede dalle persone che, diciamo, comunque guidano anche... Ma io non prendo a modello il Parlamento, per esempio, non è che io, il mio modello sono i parlamentari, non è che la mia guida nella vita sono quello che fanno i parlamentari. Io non so se lei vota oppure no, perché certo che voto sempre. E quando io voto e vedo che chi ho votato si comporta in un certo modo, che fa? Prende esempio da quelli, che fa? O non prendo esempio, però cioè si sente autorizzato a mangiare la mortadella in Parlamento, dunque si sente autorizzato, che ne so, a mangiare con le mani. Sento degli italiani è d'accordo con queste persone che hanno questi atteggiamenti, non è che posso non farmene una ragione. Va bene, il discorso sarebbe lungo, però resti con me, Alessandro, anche perché da Napoli, dove lei, ci spostiamo di qualche chilometro, perché andiamo in un'isola, a Capri, da Guido Lembo, il proprietario di Anima e Core. Come sta, Lembo? Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori. Allora, io le voglio fare ascoltare per l'ennesima volta questa sera la nostra canzone che ci ha guidato in queste ore della Zanzara, perché è la canzone che questa sera inaugura la festa di Gianfranco Fini a Mirabello, in provincia di Ferrara. Adesso, per carità, io ho tutto rispetto per le orchestre regionali, locali, sono una grande tradizione. Un nostro carissimo ascoltatore è Raul Casadei, che ci segue spesso, è stato nostro ospite. E però, come diceva prima David Parenzo, la colonna sonora di un evento tratteggia quell'evento stesso, lo timbra, lo caratterizza. E allora sentiamo. Canto e vado in giro per il mondo da signore vagabondo. Ogni sera è piena di emozioni che trasmetto con il cuore. Tanta voglia spingo e canto forte, poi sul tardi m'abbasso un po'. E le mie canzoni metto sempre una parte di me stesso, e chi ascolta capirà. Canto così, dalle emozioni il mio mestiere. Ho visto amori già spenti riaccendersi con le mie canzoni. Anche lei vuole tentare di far riaccendere l'amore tra Berlusconi e Fini con le canzoni, caro Lembo? Dico la verità, ci sto provando tutte le sere, facendo una canzone per Fini e una canzone per il presidente. Però mi sa che non attacca. Sarà troppo difficile. E quale sarebbe questa canzone? No, io faccio l'inno di Manele dedicato al presidente, poi io, essendo un ex del movimento sociale... Ah, lei è un ex missino. Sì, tanti anni fa, quando iniziai proprio a suonare, sì. E quindi cantavo sempre le solite canzoni, la faccettarina, questa cosa qua. E stasera è stato bellissimo perché ho dedicato proprio a Fini questa canzone. Ma la lei canta un inno, di Mameli, che è dedicata a Berlusconi, poi lo diremo, quella che è dedicata a Fini, sì. Un inno di Mameli particolare? Me lo puoi intonare? No, un inno di Mameli particolare, faccio proprio l'inno di Mameli, perché sono orchestre di 12 elementi, e loro si stanno tutti in piedi, si mettono la mano sul petto, Fratelli d'Italia, per il presidente. Come fa la cosa, Lembo? Mi faccia qualche pezzo. Fratelli d'Italia, il solito inno che... Solito inno, normale, vai, senza nessuna intonazione particolare. E invece a Fini che cosa fa? Bello, perché poi la gente, i ragazzi partecipano in un modo veramente gioviale. E invece a Fini che canzoni a Fini io l'altra sera, perché tutti i finali cantano faccettarina, logicamente, e cercato un po' di, però in un modo veramente a ridere a pazziarsi, diciamo. Ma chi c'era quella sera che lei ha dedicato queste canzoni a Berlusconi e Fini? Poi Fini non so, Fini non so se sarà contento di questa cosa, perché lo sa che lei, che no, Fini ha lasciato locale, quel mondo, c'era un locale zeppo di gente, di giovani, di ragazzi. No, di VIP, i VIP voglio sapere, i VIP. No, VIP non ce n'era, no. VIP non ce n'era. Invece quest'estate per l'anima e il cuore ne sono transitati molti. La guerra. Mi faccia un esempio, mi faccia un elenco. Ma di soltanto di VIP, politici. Sì, cioè, politici, politici. Vabbè, Schipani, Mastella, Riccardo Villari. Il mitico Villari, mitico Villari, Riccardo Villari, frequentatore anche dell'anima e cuore, ha fatto anche una dieta dimagrante, pare con qualche effetto. Sì, poi ho incontrato ad un congresso alla Carfagna a Napoli, Caldoro, stesso Caldoro. È venuto da lei all'anima e cuore, Caldoro? Caldoro è stato, no, su a Napoli alla Canottieri, e sono andato io a suonare l'Anello di Nardo, poi il Montezemolo della Valle, Abete, Nossel, il direttore Fese, che non manca mai. È quello, all'anima e cuore. Però dove queste persone qua, come si dividono tra lei e il suo rivale Peppino Di Capri? No, ma non ci sta concorrenza, perché sono due pubblici differenti. Io ho un pubblico abbastanza internazionale, più americani, inglesi. Quest'anno abbiamo avuto tanti bei messicani, brasiliani. Lui c'ha un pubblico prettamente napoletano, un po' più grande d'età, come noi. Più anzianotto, dice lei. Più anzianotto. Io ho avuto, per esempio, Beyoncé, grandissima cantante, Chelsea, Alberto di Monaco, la Melita Toniolo, Raffaella Fico, Jennifer Lopez. Senta, ma il suo pezzo top personale di Lembo qual è? Me lo intoni un attimo, il suo pezzo principale. Il suo. No, allora è un pezzo che si chiama Mi fido perché c'è Guido. Bada. Che fa go pallisa nell'amore, mi sa tutte furassiere, a te chiacchiere tutte i giorni sanno cantare. Una voce, una chitarra, una rumbia da cantella e canzone napolitana, facciamo fa mi fido perché c'è Guido. È una cosa per lei, insomma, mi fido perché c'è Guido. No, perché è stata scritta da me quando tornai da una situazione, ero malato, e gli orchestrali mi regalarono questa canzone, sono stato molto molto male. Senta, ma Berlusconi l'ha conosciuto lei? A chi? Berlusconi. Ma come no? Ma è venuto da lei all'anima e cuore? No, Berlusconi, ho fatto un paio di feste a Roma, un matrimonio di un onorevole. Sì. Ci siamo incontrati là, perché io ho fatto Buona Domenica con Canale 5. Quindi, sì. Lo sa che è in uscita un nuovo disco con Apicella, sì? Sì, ma siamo due generi differenti proprio. Però a lei piacerebbe cantare insieme a Berlusconi? A me piacerebbe cantare con tutti, la verità proprio, perché sono uno che fa l'intrattenitore. Mi piace fare la serata, pure camminare su un filo, su un doppio senso praticamente. Per esempio? No, perché c'è questa canzone che lei voleva accennare forse, che è Volesse. Puntini, può significare tante cose. Volesse. Tante cose, però Volesse fa amore, diciamo. Così, Traffico, torniamo subito. Lembo, resti lì. La Zanzara. Amore mio, mon amour. O sai, non ti aspettavo proprio più. E te volevo scrivere una lettera, però a giù pensate, meglio una canzone, perché no, teneva voglia pazzi di vedere. Questo Apicella, che è stato nostro ospite ieri e ci ha anticipato i contenuti di questo album con Berlusconi, caro Lembo, però dica la verità, insomma, Apicella certo ha avuto una bella botta di fortuna nella vita. Ha avuto una fortuna, però penso che c'è anche i requisiti per fare un certo tipo di lavoro, nel senso che deve lavorare con il presidente, fa un altro tipo di lavoro, gli faccio intrattenimento, a me non andrebbe di anche lui lavorare però, così. No, a me piace fare il mio locale, Cioè lei di stare appresso a Berlusconi? No, non mi piace l'intrattenimento, perché non, da me non è che mo è un locale politicizzato che vengono soltanto i finiani, i berlusconiani. No, vabbè, certo. Vengono da tutte le parti veramente, comuniste, cose. Io se faccio faccettarina dopo ci metto subito avanti popolo, come deve dire? Io prendo un po' a ridere tutto, no? Ma lei che è stato la vecchia passione missina, lei ormai l'è sfumata per lei o no? Ma noi ci hanno messo figli del dopoguerra, ci hanno messo anche con la squadra di pallone a 13 anni ci mettevano ancora le magliette nere con scritto Giovani Italia. Ma questo chi gliele metteva queste cose? Eh no, praticamente i presidenti delle squadre. Ho capito. Quindi tu nasci con questa cosa qua, ti viene la passione. Ma è vero che lei nel locale ha una sorta di fotografia con un fotomontaggio, lei con Mussolini? Sì, è vero. Mussolini. È verissimo. Se arrivano da Como, lì dove hanno protestato con Dell'Utri, gliela strappano via quella foto. Ormai Dell'Utri non c'è, non è che me amo per forza tutte le persone che sono legate a un certo movimento. No, ma che c'è? Io sto parlando delle proteste che ci sono state. No, io sono uno che può parlare benissimo con Della Valle o con uno che è contrario, cioè a me non fa niente. No, certo. Bertinotti, abbiamo fatto delle feste con Bertinotti, delle feste, delle feste a casa della Marini, sì. E allora stavo con e quindi una persona bellissima, lui ama le canzoni napoletane, cioè io faccio l'intrattenitore. Certo. E ai politici piace molto fare le feste e pagare un intrattenitore, Lembo? Che a chi? No, ai politici in generale piace molto fare le feste e pagare gli intrattenitori? Ma i politici io non ho preso mai una lira. E che c'è andato a fare allora? No, sono andato nella festa, per esempio, che era poi di Cecchi Gori. Ho capito, poi si incontravano i politici lì, certo. E quando pigliano un soldo hanno politica, mai. C'hanno le mani come il marchio della Peugeot. E cioè... Hai visto il marchio della Peugeot che ha le mani tirate via, sono così. Grazie Lembo, buonasera. No, dall'anima e cuore di Capri, qua è finita la stagione. Sì, anima e cuore. È finita la stagione, è finita. Speriamo di no. Beh, ancora forse una. Lembo c'ha così, anima e cuore. Com'è che fa? Lembo c'ha così, anima e cuore. Fantastico. Non ce la stammi più, manca per ora. Va bene? Ancora, vada. Su desideri e te, ma fa paura. Campo con te, sento con te, per non morire. Ma tutte e due direi, che ci dici, ma fa parola amara. A fine bello scuro, ok? Che ci dici, ma fa parola amare, altro che parole amare qua. Però lei questa canzone può aiutare, continui un attimo con questa cosa di riconciliazione. Io bene, può campare con un respiro, si smania pure tu, per chi sta amore, fini, tenimma già così, bello scu, anima e cuore. Guido Lembo da Capri. Questa è la loro canzone, scusate. No, fantastico, grazie, buona serata. 20:51. Ascoltino Guido Lembo. Oppure no, chi se ne frega. O desideri te, ma fa paura. Campa con te, sempre con te, per non morire. Flavio da Modena, eccoci. Sì, pronto. Ripiombiamo su Dell'Utri, mi sembra, no? Ma temo che oggi il tema principale sia questo, no? Sì, vada pure. No, non capivo perché questo accanimento contro una manifestazione che è stata, si dice organizzata, ma forse probabilmente era semplicemente una manifestazione di protesta verso un personaggio che ha perso, non so, molta credibilità. Dopo... Guardi che le manifestazioni contro Dell'Utri sono legittime, il punto è un altro, non è questo, l'ho detto mille volte. Cioè, Dell'Utri leggeva dei diari che saranno falsi, saranno veri, questo lo vedremo fra qualche mese, fra qualche anno, non so quando, in un contesto che era un contesto abbastanza normale, cioè una manifestazione che si chiama Parolario, se non sbaglio, a Como. qual è il punto? Qual è lo scandalo? Lei si scandalizza per una cosa del genere? Per il fatto che De Lutri parli di questa cosa qua? No, no, ma non mi scandalizzo nemmeno perché magari alcune persone ritengono di contestare un personaggio che comunque è pubblico e che ha delle vicissitudini, che ricordiamo che in Italia è uno dei pochi paesi dove 3 gradi di giudizio occorrono a stabilire che una persona sia colpevole o innocente. Lui adesso secondo me deve ormai dopo 2 gradi dimostrare di essere innocente, quindi è legittimo che abbia perso popolarità e che ci siano delle persone che contestino. Sì, ma Flavio, perché io non voglio dire che non si può contestare De Lutri, figuriamoci, De Lutri è contestato continuamente, per cui non mi pare questo il punto. Beh, acclamato da una parte, difeso, eccetera. Ma acclamato non mi pare, comunque, insomma. Beh, difeso da una parte, diciamo, difeso, sì, più che acclamato. Difeso, ci sono diversi video su YouTube che abbiamo visto il Premier acclamare De Lutri come personaggio, insomma, eclettico, eccetera. Però dico, è stato contestato il personaggio, non quello che magari voleva dire riguardo ai libri di Mussolini. E questo bisogna, secondo me, di cui bisogna prendere atto, che ormai questi personaggi perdono popolarità perché hanno delle vicissitudini che sono poco chiare. Insomma. No, ma questo l'ho capito. Ripeto, io contesto il fatto che uno parli in pubblico e venga interrotto e non si possa concludere la manifestazione. C'erano delle persone che aspettavano la lettura di questi diari, ma non tanto per i diari, per qualsiasi altra cosa, a parte la ridicola giustificazione che De Lutri sarebbe una sorta di difensore di Mussolini, cosa peraltro non vera. Grazie. Gianni da Lecce. No. Buonasera, dica Gianni. Sì, niente, volevo dire soltanto questo, che mi sembra una presa di posizione tipicamente berlusconiana in questo periodo dove tutto va bene, dove tutto... Cosa? Presa di posizione berlusconiana cosa? In questa atmosfera berlusconiana, in questo berlusconismo, le affermazioni sue, quelle di Sgarbi, entrano proprio incastonate benissimo. Si è perso proprio quello che, non so, un criterio generale di etica, di morale. Un personaggio come quello là non dovrebbe proprio esistere nelle cronache, dovrebbe essere messo da parte, dovrebbe sparire dalla circolazione. Invece che cosa si fa? Lo si protegge, lo si giustifica e niente, è un coagulo di male quello là, nient'altro. Gianni, lei però dimostra con queste cose che ha ragione Sgarbi quando parla di un razzismo nei confronti dell'uomo. Ecco, siamo razzisti, siamo questi. Secondo me sì, con queste sue frasi nei confronti di De Lutri lei dimostra questo. Dottore Cruciani. Guardi, che a me Gianni di De Lutri non me ne frega niente, io non lo conosco, non ci discuto ogni tanto per radio sulle sue cose, eccetera, lo invito perché fa notizie e tutto. Per cui non ho problemi, non ho rapporti particolari. Ha chiuso Gianni? Vabbè, richiamiamolo, Luigi da Chieti. Sì, buonasera, dottor Cruciani. Dica. Io volevo fare solo 3 brevissime osservazioni sui sono contenuti. Troppe, ne faccia 2, 1, quella che vuole. Sempre, va bene. No, quello riguardo ai discorsi del colonnello Gheddafi, che nonostante il folklore della sua visita, che a volte magari confonde i contenuti, la richiesta dei soldi, dei 5 miliardi, per tenere ferma l'immigrazione, la potenziale immigrazione clandestina. La prima cosa che mi viene da pensare è che in realtà sembra quasi un ricatto, nel senso che lui è detentore di questo potere nei confronti dell'Europa. Sì. E la seconda cosa è che in realtà questa cifra, che tra l'altro ricorre perché credo che sia già stata menzionata nel patto di amicizia tra l'Italia e la Libia, e sembra sminuisce anche il valore politico di questo patto, nel senso che sembra che i governi paghino il colonnello Gheddafi una cifra, quasi una sì, tanta. Però la realtà è questa, cioè Gheddafi vuole i soldi per impedire che le sue coste diventino dei punti dove si parte per l'Europa. Abbiamo di nuovo Gianni per concludere, allora. Gianni. Sì, per concludere Non si sente nulla. Voglio Gianni dire che lei credo che ci faccia un poco a fare il cinico, a mostrarsi così. Gianni, non sentiamo nulla. Vittorio da Roma, buonasera. Buonasera a tutti quanti. Deve chiudere, Vittorio. Sì, chiudo, è bellissima questa cosa. Allora, intanto le dico solo una cosa brevissima. Sono stato in Francia 20 giorni, due cose mi sono mancate. Cosa? La prima è il caffè espresso, perché lì non si può bere. Vabbè, quello... La seconda è la zanzara di Cruciani. Vabbè, grazie. Splendido Telese, altrettanto splendido Parenzo, che sono contento collabora con Telese perché è bravissimo secondo me come conduttore e anche superiore. Vabbè, allora... E in conclusione, lei, la sua è una trasmissione pedagogica perché dà la possibilità alle persone di imparare a quelle che vogliono. Ovviamente, perché chi non vuole. Non Vittorio, può. Però qui siamo ai violini, per cui o è lei ironico oppure siamo. Purtroppo la sua trasmissione è musica per le mie orecchie. Sviolinata finale. Non posso dire altro perché lei è riuscito a completare il quadro della situazione. Volevo fare un intervento, ovviamente, sulla. È troppo tardi, è troppo tardi, è troppo tardi, via. Dissolvenza. No. Dissolvenza, Vittorio. Però se vuoi ci sentiamo domani. Noi abbiamo sempre i numeri, li conserviamo, poi li cancelliamo, li distruggiamo. Non siamo come qualcuno che dovrebbe distruggere qualcosa, invece non la distrugge. A domani. Ricordati che devi morire. Com'è? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa... Non vi preoccupate. Radio 24. La passione si sente.